alla differenziata, che molta gente butta cose che a me piacciono tantissimo, poi adesso la provo. Dunque devo tagliare due spettoni di cavo rosso e nero e provarla, accende, accende, devo provarla bene e vedere un po', è molto simpatica qua. L'hai trovata sempre lì. se uno è un collezionista, poi ci sono degli spazzini, molte volte li vedo a Portobello, gli spazzini anche di Portotorre, se la cosa che trovano se la portano a Portobello a vedere. E alla fine sì, perché molta gente ha, diciamo, ha il brutto video, poi giustamente ognuno la pensa come vuole, o nero inutilizzabile, oppure vecchia generazione, funzionante, attenzione, funzionante, prendo, buttano e giustamente si ricoprano nuova. E chi piacciono queste cose qua, come me, io non li sembrava, mi prendono gli occhi, sta bella pulita, lucidata e la metti in un angolino, fa figura, e quando vuoi ascoltarti la radio te l'ascolti in diverso modo, c'è un bel pomellone, ha un sacco di regolazioni, è bellina, guarda, è abbastanza simpatica. L'ho messa su due piedi, quello per poggiare le pianole, che ce l'avevo già da anni, l'ho poggiata lì, fa bella figura. Adesso piano, c'è anche la forbice in mano, la senti? Pronta a attaccare, a tagliare i cavi a misura e a provarla. Ma è grande, di quelle grandi oppure di quelle piccoline? No, se ne è presente quando i vecchi impianti che si usavano negli anni 80, dai, che erano a tratti, c'era lo strato della radio, lo strato delle mangianastri, poi è arrivato quello del DVD, e, diciamo è uno strato, che poi alla fine hai la possibilità dietro di collegare o un giradischi oppure un mangianastri, ti fa anche, diciamo, anche da amplificatore per sorgenti, diciamo, esterne dalla radio in sé. Non ti posso dire, sarà 50, fai 70 per 15 alla fine, profondità 40, ecco. Ah, ecco, è più o meno quello che usavamo prima in negozio, i primi impianti che usavamo in negozio, c'era il mangiacassette e la radio. Ecco, questa qui è proprio solamente radio, è nata così, solo radio, punto, poi se avevi altre pezzi da attaccare hai la possibilità dietro. Ed è della National Panasonic, che poi alla fine National non lo usano più, della Panasonic, ma penso, guarda, occhio e croce, non vorrei sbagliarmi, dire cazzate, ma secondo me dovrebbe essere degli anni 70, sicuramente degli anni 80 no, degli anni 70 buono, e dico che in ottime condizioni, non c'è neanche un graffio. Panasonic è una sottomarca della Pioneer. Però diciamo adesso se vedi, se compri per dire un televisore, una radio è Panasonic, invece c'è scritto National Panasonic, questa National non la usano più, dunque dovrebbe essere sicuramente anni 70, 8, 9, 10, avrà una trentina d'anni buona, lo dico veramente, guarda, tenuta bene, poggiata da una parte, il cavo di alimentazione è abbastanza rigido, anche lui è originale. E purtroppo la gente a volte diceva, oh, sicuramente andavano in soffitta, non si facevano niente, portata lì direttamente a riciclare, ma ci penso ogni fine settimana a farmi un salto e vedere un po' cosa si trova, dai, intanto qualche sorpresa c'è. Fanno prendere, perché per dire, in altri posti non puoi entrare, tipo sassole e cose del genere, ci sono i padaccelli all'entrata. No, sì, io ho problemi, non ho problemi, dai, mi sono fatti amici, dunque, non c'è nessun problema, sanno che devo andare lì, anzi, a volte me le procurano anche loro le cose, no, non c'è problema, guarda, ho trovato una vecchia radio, una M della Voxon, e funziona benissimo, ho trovato un mangianastri della Philips che devo cambiare la cinghia, ed in ottime condizioni. Poi ho trovato una radio televisione della Incotronic, dovrebbe essere degli anni 80, funzionante. Poi ho beccato altri, un giradischi portatile, un amplificatore della, aspetta, che marca è questa? Ah, un amplificatore della Kenwood, puoi farmi vedere un po' cosa ho beccato altro. Ah, è una radio a valvole, anche quella lì funzionante. e poi altre due radio ce li ho su in soffitta e molte altre cose, a volte anche, anzi a volte, sempre telefonini con trasformatore funzionante regalati a chi ne aveva bisogno. Cosa ti stavo dicendo? Cosa fanno quei televisori? I televisori li buttano in funzione. Ah sì, scusami, è un televisore 32 pollici della Mivar, che ce l'ho qua davanti, 28 S4 stereo, che funziona veramente bene, si vede bene. Anche quello lì buttato, l'hanno messo da parte, tanto sanno che io sabato ci sono, sabato una mattina passo. Mi Antonelli dice, se vuoi un televisore questo funziona, chi l'ha scaricato qua, mi ha detto, l'abbiamo cambiato perché ci avevamo preso giustamente di quelli piatti. Ecco, dopo non c'è problema, ce l'ho qua in stanza, funzionante perfettamente, adesso ne ho due, non uno, do due. E cosa, come fai a mettere tutta questa roba in casa, dove ce la metti? Spero giù in soffitto, o su in soffitto, lui giù in cantina, poi a chi serve, una cena, un televisore, Antonio, prendo, glielo do subito direttamente. Alla fine no, non c'è nessun problema, sono regalato da una parte all'altra, tanto poi la trovi lì, adesso ho trovato un telefono dell'LG, l'ho regalata a mia figlia, perfettamente funzionante, poi un Samsung di quelli apribili, no, al libro, un piccolo telefonino funzionante con trasformatore regolato a chi ne aveva bisogno, e avrò proprio guarda, ho regalato 4-5 telefoni, vecchia generazione, non touch screen, sottolineiamo, però funzionanti, senza graffie e con trasformatore. I Bilbo ci lasciano la scheda, ci lasciano e pure le loro foto, i loro messaggi, giustamente cancello tutto e poi lo regalo. Guarda, è buono. Mi è una fortuna, anzi ancora uno, fortunatamente ho trovato baracchini e lì. E quelli magari non li buttano. Mai dire mai, come si dice sempre, comunque se c'è buono, io non mi pare dire, mi brillano gli occhi, subito lo prendo e corro a casa a provarlo. Quando lavoravo con CB, che faceva questo lavoro, prendeva la roba che buttavano, ne ha trovato due portatili, uno per la macchina, non so quanto ne ha trovato i baracchini. Sicuramente all'epoca, quando c'era il boom, c'era diciamo un cambio di apparecchiature, adesso invece sono diventati abbastanza rari qua in zona, purtroppo, ma almeno ripeto, pochi fa buoni. Senta Alessini, mi ha detto come di questa roba. E però lì è difficile, una volta ci ho provato, però non mi hanno fatto prendere niente. Ho visto che hanno diviso abbastanza la merce, sia per gettare che per loro, giustamente, perché vogliono approfittarne. E se riesci a farti gli amici, perché no? E possono mollare un televisore, proprio veramente se ne necessità, una vecchia sedia che è pure strutturale che ti piaccia, per dire, o qualche altra cosettina. Però qui a Usi invece con la scusa è che ci sono diversi scompartimenti, hai più possibilità di ricerca. Alla fine c'è un compartimento sia per la legna, sia per i bicchieri, per, diciamo, per il vetro, cartone, per un reparto per elettrodomestici, ma trovi di tutto e guarda, anche slot machine ho trovato, ma non l'ho presa, non ne facevo niente. Già ne buttano roba, addirittura una volta alla discarica è venuto questo signore trubbende con la macchina, adesso lo buttano il cartone, è venuta la discarica, aspettate, quello con la ruspa l'ha fermato, cosa è successo? Mia moglie mi ha buttato, allora c'erano le lire, 7 milioni e passa in uno scatolone di scarpe vecchie che avevo nascoste in soffitta, ha trovato queste scarpe vecchie, ha preso e ci ha buttato tutti, ora avevamo scarti lì per non vederle nessuno. E cazzo, mi ha buttato il cartone con i soldi dentro, e gli spazzini, e come facciamo? Sai quanto abbiamo seppellito, mi ha detto, chissà che camion è arrivata quella roba lì. E niente, lui ha detto, allora non potete fare nulla, con una pala hanno fatto finta di cercare, così, non ne trovo più uno di questi su. Dice, comunque se li trovate lo sapete che sono i miei. Se n'è andato, come è stato, tutti gli spazzini currenti, sono andati via così a cercare, siamo messi i guanti, le mani in mezzo alla mondetta cercando il sud. Dio mio, chissà se ne avrò trovati anche, con quelle montagne di mondetta, chissà. Prima sono state giorno e notte lì finché qualcuno non li avrà trovati, vedrai. Avranno diviso minimo e c'è uscito più di una rostita. Ma poi io lo so come facevano, praticamente quando arriva il camion scarica, la ruspa prende la terra e gliela butta sopra e poi la sparge, no? La sparge e ci passa sopra, poi di nuovo prende la terra e le butta ancora. Io lo so come fanno, capito? Perché quando buttavo il cartone alla discarica, adesso ce lo ritirano loro, ma prima dovevi andare tu a portarlo. Quando ci buttavo il cartone alla discarica era così. Sì, quello sì, io mi ricordo, quando buttavo il cartone che pagavamo si portava lì nella strada di Usilo, ma molto prima di Usilo, c'era una discarica a pagamento, sì, c'era la ruspa, potevi portare qualsiasi cosa che poi loro coprivano direttamente e ciccia. Infatti lì, con la scusa, avevamo gettato il cartone, ho trovato, ce l'ho ancora a casa, due pizze di quella da 16 mm in bianco e nero, chissà di quale film è. Buttate lì, me ne ho preso, ne ho due, una di quelle grandi e una piccola, è datato 1973, una cosa del genere, era un comizio della Democrazia Cristiana, ce l'ho ancora a casa conservato, sia la custodia che la pellicola originale bianco e nero sonora con l'azienda, aspetta, Istituto Luce, ce l'ho ancora a casa, trovata lì la discarica esattamente nel 2000 quando lavoravo da Pedro Arredamenti. Volta, quando ci vuole la discarica è arrivata la finanza, scortando un camion, l'ha fatto scaricare lì e gli ha chiesto di fare fuori di distruzione al, diciamo, al ruspista, quello che guida la ruspa, al palista. E praticamente hanno scaricato droga e l'hanno fatta bruciare davanti. Droga che avevano sequestrato, l'hanno bruciata tutta quanta, e poi cassette di quelle nastri, CD, tutta questa roba. E tra questi CD ce n'era uno che c'era scritto Ballabili, e quello della ruspa mi ha detto: mi Ballabili, pigliati quello che deve essere bello, Ballabili. Invece c'era scritto Ballabili, no? E gli ho chiesto al finanziere: non è che me lo dà quello lì, no, posso prendere? E mi ha detto: vai, prendilo, ma non lo dirà nessuno. E la fede cos'era? Un CD musicale, video, cos'era? CD di quelli porno, c'erano musicassette, insomma un po' di roba che ho sequestrato ai negri, marocchini, questa gente qua. Mutande, calze contraffatte, tipo le Nike, cioè avevano il marchio tipo Nike, e tutta questa roba l'hanno bruciata, l'hanno messo a fuoco. Ah, e che invece dare giustamente chi ne ha bisogno. Sicuramente questo è successo un bel po' di anni fa, alla fine, dai. Sì, è successo un po' di anni fa quando andavamo lì a Monterosi a scaricare, ma adesso vengono loro e si prendono tutto loro, tranne le cassette di plastica e quelle di legno, che devo portarle io. Le cassette di plastica le porto alla zona industriale, che c'è uno che raccoglie la plastica, e le cassette di legno invece la differenziata, che c'è sempre alla zona industriale, dopo la plaza lì. Io ho capito com'è la zona. E prima era così, si pagava, adesso quanto male trovo la discarica, quando a buio l'hanno chiusa, sicuramente non era in regola, ma questo ti giuro che si faceva una barca di soldi, potevi buttare qualsiasi cosa, ma poi giustamente copriva. Guarda, e si vede benissimo dopo che fai il primo curvone per fare la strada vecchia per andare a Usilo, sulla destra ci sono queste montagne di terra che sono verdi dall'erba, comunque c'è un sacco di mondetta, ma veramente si buttava di tutto, la gente pagava e se ne andava, poi lui copriva, e poi sicuramente l'avevano scoperto e hanno chiuso tutto, ma quello all'epoca ti giuro che si è fatto una barca di soldi sempre seduto sulla sedia. Non so, già me lo ricordo, sì, quella di scarica lì. E la cosa più strana che ho visto è ho toccato una balena proprio peronata dalla nave, è andata un autotreno, l'hanno caricata su questo, l'hanno staccata dalla nave, l'hanno caricata su questo autotreno e l'hanno portata alla discarica. L'hanno scaricata proprio davanti a me e questa balena è enorme, cazzo. E l'ho anche toccata, era ancora fresca, praticamente la mattina è arrivata la nave con la balena in punta. Siamo qua direttamente alla discarica a buttarla lì. Poi l'hanno sotterrata. Allegria. Ed era gigantesca, cosa ci ha avuto di quei carichi speciali per portarla lì? No, un autotreno l'ha portato, un articolato. Il rimorchio di un articolato pieno, era. Ma c'era stata 12 metri, roba del genere. Non è poco, lì si poteva fare il sapone. L'hanno buttata via. L'hanno caricata, tutti al porto guardandolo quando la caricava, l'hanno presa con una gru, l'hanno presa, l'hanno imbragata e poi l'hanno tirata con questa gru, l'hanno staccata alla nave e poi l'hanno caricata su questo autotreno. Sono delle belle scene, alla fine, quando fai alcuni lavori, guardi, vedi cose veramente strane, quello sì. Quando fai il mobiliere, diciamo, il lavoro che fai tu per dire in consegna, poi devi, giustamente smaltire i rifiuti. Secondo dove vai ne trovi di cose strane, veramente. Rimani a bocca aperta, come per dire anche a Osi e altri paesi, per dire che sono le discariche, giustamente a termini di legge. C'è molta gente che butta cose funzionanti e poi pensi, ma porca miseria, ma è possibile? Ah, e poi dice che c'è crisi. Poi c'è un po' troppo evitata la gente. Io finché guardo una cosa non si rompe. E ci vuole poco ad aggiustarla, rimetto di nuovo in funzione. Se vuole più ad aggiustare la butto, perché giustamente ha fatto il suo corso di vita, ma molta gente guarda, butta cose che veramente si possono utilizzare, si possono anche dare a veramente chi ne ha bisogno, buttano lì e se ne vanno. È allucinante la situazione. Sai quanti di quei negretti che hanno bisogno del televisore eccetera, che lo vorrebbero? Ce ne sono, vanno a Portobello a comprarli, li ho visti io, vanno a Portobello a comprare i televisori, a comprare queste cose perché costano meno, no? E niente, comunque ne ho visto di belle cose. Una sera sono andato alle 8 a scaricare il cartone perché non ce l'ho fatta la mattina, sono andato alle 8, sono salito alla discarica. Se vado scarico il cartone e a un certo punto sento questo rumore, era tutto pieno di cinghiali mangiando la mondezza, cazzo. Cinghialetti piccoli, la mamma, il babbo, c'era una famiglia, ce n'era. Cazzo, comincia a bisciglire col furgone. Ma se qui dove era durante il Monte Rosello, ma monte, su al monte stai dicendo? No, Monte Rosé, a Porto Torres, praticamente la strada vecchia per andare a Stintino, ce l'hai presente? Sì, quella sì, lì non ci sono mai andato, io andavo, vabbè, molto prima, io andavo a Trunco Reale, perché lì c'era la differenziata e poi potevi portare o cartone o plastica. Dove stai dicendo tu, no, diciamo, sia televisori, elettrodomestici e cose varie, non ne prendeva, solo cartone e plastica. Ah, sì, scusami, è vetro anche. Cartone, plastica e vetro. E devi compilare un prontuario, numero di targa, quanti chili di cartone avevi, che tipologia di cartone era e così via. In mezzo a baranoia. C'era un periodo che bisognava fare pagare la tassa prima la posta, prima di scaricare. Sì, esatto, io per ogni carico che facevo, a volte in arco di un mese ne facevo io due viaggi, perché l'unico che ci andavo, gli altri non volevano sporcarsi le mani a scaricare, e andavo io al Trunco Reale, preparavo il documento, che tipologia di cartone che era, a che ora partiva, a che ora rientravo, l'azienda, codice fiscale, un sacco di cose bisognava compilare prima di partire. Poi quando andavi al Trunco Reale scaricavi a mano, perché diciamo il furgone, sai, di quelli cabinati, non è ribaltabile quello per i mobili, dunque a pezzo dopo scaricare lì direttamente, poi passava una macchina e le dava la forma, diciamo, di un grande contenitore legato a fil di ferro tramite una macchina, e deve preparare tutto questo, deve fare tutta questa procedura per scaricare, se no non te ne prendevano. Lo so com'è, casino. Però non è giusto, perché uno paga la tassa mondiale e poi deve andare a scaricarsi la roba. Esatto. E in più lì a Truncolare c'erano anche, adesso che mi ricordo bene, facendo memoria, c'erano sei signore che dividevano la plastica, le bottiglie dell'acqua, le bottiglie detersivi, i diversi scompartimenti, che poi venivano presi anche lì, imballati e poi spediti fuori per il riciclaggio. Dunque loro ci guadagnano due volte, uno perché devi pagare per scaricare, poi due perché rivendono quella merce e poi è riciclata di nuovo. Dunque anche lì, porca miseria, c'è un giro allucinante di soldi, Ma poi ci ha lavorato anche mio compare lì, poi un periodo che non c'aveva lavoro, ha trovato lavoro lì e è entrato a lavorare lì. E doveva praticamente dividere le bottiglie colorate da quelle bianche, le bottiglie di plastica, mentre la macchina andava velocemente, dovevi fare, no? E dividere subito quelle bianche da quelle, perché la macchina non lo faceva. Esatto, proprio così, però c'era una pedana, diciamo era un secondo piano, aveva un secondo piano dove lì correva un altro trasportatore e tu a mano dividevi, poi davanti a te c'erano dei fori dove facevi cadere, diciamo sì, la plastica sia da quella bianca a quella colorata, esatto, sì. Poi riempivi questi contenitori, quando erano belli pieni aprivano gli sportelli, cadevano un altro trasportatore spinti da un muletto, che salivano con sopra un'altra rampa di un altro trasportatore, che venivano pressati e davano la forma, diciamo, della palla, come il fieno, però giustamente in plastica legati a fil di ferro, e poi venivano accantonati fuori, pronti per il trasporto. È un bel giro, però ho sentito che sono mali pagatori in cui. Sì. Ma che stavo dicendo, noi ci avevamo la macchina per le bottiglie, no? Avevamo messo lì ai granai la macchina per le bottiglie in plastica, le formava, le faceva, le trasformava in balle, di plastica, e cadevano dentro questo roll, che aveva un sacco, di modo che non uscivano fuori, si riempiva, ogni giorno dovevi andare a cambiare, ripetivi quello vuoto e prendevi l'altro, le facevo un po' di pulizia interna e cose. Beh, lo sai cosa tutto ci buttavo, ma ce l'ha buttato anche l'olio della macchina, ma cambiato lui, ci ha buttato l'olio dentro, ha tutto traboccato, un casino, alla fine il principale si è rotto le palle, ha preso la torre. Dio mio, hanno buttato il contenitore di plastica pieno di olio usato, di macchine, buttato lì dentro. Allora, poi praticamente il macchinario, c'era un altro trasportatore che a una le bottiglie le schiacciava, le portava su e poi le imballava, le faceva quadrate, una volta imballate faceva cadere la balla dentro al roll, capito? Cosa succedeva? Che poi alla fine, siccome le bottiglie di plastica sono sempre liquido, acqua o roba del genere, c'era sotto una, cosa ti posso dire, una sacca lunga fatta in plastica che conteneva tutti i liquidi che c'erano nelle bottiglie. Questa sacca si è riempita talmente tanto di olio che stava quasi traboccando, e io per non farla traboccare, perché se cadeva l'olio poi andava a finire nei garage, le macchine avrebbero pattinato, un casino sarebbe successo. Allora cosa ho fatto io? Con un barato, un recipiente, piano piano l'ho svuotato a secchio e l'ho tolto tutto quanto, ma un lavoraccio. Ho chiamato a lui, gliel'ho fatto vedere cosa avevano fatto, si è rotto le scatole. Ha detto gli diamo il servizio gratis e cosa, poi tu ogni bottiglia che mettevi acquistavi dei punti che poi ti facevano uno sconto sulla spesa oppure prendevi dei regali, dipendeva dalla tua scelta, capito? Ogni bottiglia era un punto. Bravi, belli, bel divertimento si hanno preso. Invece il fatto di tecnologia di riciclaggio, c'è in paese, tra un po' aprirà qualsiasi sera 24 ore su 24, appena finisci dei giardini, se ti vuoi prendere una Coca-Cola alle 3 del mattino ce l'hai, siccome Sassari, penso che ti sei accorto anche tu, e ti ha pensato di questo mangia e bevi aperto 24 ore su 24, lo stanno mettendo anche a Orsi, guarda che tecnologia. Hai visto? Sei progresso. Te le immagini, andiamo, guarda, stiamo trovando di tutto per fare i soldi, Adesso sicuramente lì superalcolici non ce ne saranno, perché non credo, ma se nel caso poi ci siano, il giorno che dovete salire con gli Mangino, sappiamo dove andare. Coca-Cola c'è, la Sosa, che se cos'è qua, qualche panino. Io non ho mai, non sono mai stato di quelli che adoperano le macchinette, perché temo sempre che mi bruciano i sud. No, sembra che funziona abbastanza bene, ma lasciando perdere le patatine, la Coca-Cola, il tè, quello che vuoi, io vi trasso che vendono dentifrici, pasta, preservativi, vabbè, quelle sono tutte le parti, poi vendono tè al limone, tè Lipton, dunque, diciamo, alimenti di primissima necessità, anche latte ho visto. Dunque, se ti manca il latte, è tutto chiuso, è una cosa urgentissima, tu vai lì e te lo prendi direttamente in questi servizi automatici. Da una mattina a me è successa una cosa del genere. Praticamente c'avevo Manuela che era neonata e mangiava il latte normale, prima quello in polvere e poi gli stava dando quello normale. Il che pensavamo di averlo il latte, che va a prendere il latte e mi sveglia mia moglie, Gianni devi andare a cercare il latte, non c'è latte per la bambina, come faccio? Allora mi è venuto in mente, faccio un giro dei bar e magari ce l'hanno, che i bar che aprono presto, l'ho chiesto a uno, no, a me mi serve per le colazioni, non gliene posso dare, e vado all'altro, la stessa cosa. Meno male poi sono andato da Davio Maltagliati, che è un amico, e cosa, beh, tu già quando te ne serve un cartone, te do un cartone, problemi non ce ne. Però intanto, capito, un po' la stessa mi è venuta, perché la bambina doveva mangiare. Sì, finalmente d'accordo, sicuramente gli avrei chiesto un litro, Dio mio. Per un litro di latte non ne ha fatto una strage questi. Però non ce n'era uno, tutti per le colazioni, ci do giusto per le colazioni, non posso darti. Dio mio, per un po' di schiuma, vabbè, non so come è fatta la gente. Però alla fine capita l'occasione, oppure anzi capita, sì, chiamiamo l'occasione che hai necessità e dunque sai benissimo dove andare. Poi giustamente siamo nel 2012, bisogna anche aggiornarsi a quanto pare. Comunque anche a Ossi, un paese di 6.000, quasi 500 abitanti, che ci manca poco, stanno mettendo questo self-service. E vabbè, tutto lo stanno tutto colorando, sistemando, ci hanno messo già i frigoriferi, già le scritte, tutto luminoso, e là, ci stiamo modernizzando anche noi. Poi alla fin fine Ossi è un sassane 2, un dormitorio. Come? A Milano? No, adesso no, da quel lì ho un amico che metto che lui portava le spese a casa che facevano tramite internet ordinavano la spesa, non si muovevano da casa, pagavano con la carta eccetera, li portavi la spesa a casa. Quello sì, questo già me lo immagino, è sicuramente un 15 anni fa. Mi sa che anche adesso chi ci abita al 15° piano se le fa le scaline per tornare lassù la spesa, cercando di risparmiare anche lì, porca miseria. Avanti, buonasera. Buonasera a tutti, da Antonio Bombo da questa parte. Buonasera Bombo, l'hai ben sentito. Buonasera anche da parte mia, dai, state pronto il service. Amico, la scusa, quando c'è qualche novità in paese, diciamo la butto fuori così, da, tanto per chiacchierare, per avere qualche discorso diverso così. Scappa. Io invece ho visto un'altra cosa ancora più tecnologica. E raccontaci. Scappa, il distributore automatico di bombole del gas. Dio mio, e dove? Non credo a Sassari, non credo che metti gli spiccioli e ti esce fuori una bombola, no? No, tu porti la bombola e te la rendi, hai capito? Una ditta di Torino fa queste cose qua, tu metti dentro la bombola, prende questo pettinato, la porta dentro e te la riempie. Ti riempie la bombola, poi ti esce l'importo di quanto devi pagare in contanti o carta di credito e poi paghi e te ne esce la bombola piena. Sicuramente col risparmio dovrebbe costare molto di meno che acquistarla, per dire, una persona come te che diciamo che intraprende questo lavoro, giusto? Dovrebbe costare molto di meno. Ma so che una una bombola da 10 costa in continente, stanno provando questo macchinario, c'è anche su internet, cioè, basta andare a vederlo. Distributore automatico, bombole GPL gas, una cosa del genere, te lo fa vedere che cosa è. Una bombola da 10 so che costa intorno ai 9 euro. Una bombola da 10 kg è pochissimo, 9 euro, c'è un bel risparmio, eh. Vedi, questo potrebbe essere qua in Sardegna un'opportunità di lavoro. Come te lo tagliato subito, vabbè, qualche qua, siccome è più caro il gas, qualche le dà per pagare neanche 15 euro. Atto. Sto mettendo una cosa del genere, sarebbe una super tecnologica. Poi sarebbe una novità, guadagnerete un bel soldo. Capito? Avendoci una cosa del genere sarebbe una cosa micidiale. Molta gente rimarrebbe senza lavoro. Quello purtroppo è un problema. Vedi un po', 9 euro. Adesso io, guarda, noi a casa utilizziamo una bombola piccola da, adesso non mi ricordo, ti giuro, quanti litri siano. La bombola piccola, cioè piccola, media e grande, la piccola. E la pago a Ossi, la paghiamo, se non sbaglio, 23 euro. E ci, vabbè, e ci dura due mesetti, una cosa del genere, 23 euro. Immaginati tu se una bombola piccola paghi 9, quanto risparmi? Più della metà, porca miseria. Gabba, poi qua, siccome Nokia è più, sempre più caro di continente, fa che qua la paghi anche 15 euro, la paghi anche, cosa ne so, mettiamo la paghi anche 12 euro per dire, ma sarà così, sarà, una cosa del genere, non sai quanto risparmio c'è? È un bel po', poi mi è una curiosità, una bombola piccola, non quelle piccole intendo, come ti posso spiegare, non di quelle piccolissime, una, cioè, io, vabbè, penso sono diverse grandezze, piccola, media e grande, una piccola per dire che è giustamente il tuo lavoro, quanto viene a costare a Sassari? Un po' di più di orsi, 25,50. 25,50. Qui invece ho 23, se te la portano loro, paghi 23, 24, 25 perché si prendono 2 euro di trasporto e te la piazzano pure. Invece se vai tu, vicino, vai in macchina, ti capita l'occasione, vai la prendi tu e stai risparmiando quei 2 euro e alla fine conviene a Ossi allora. Dai. Tira! È così! Se te la porta a casa è 27,50 euro. Buonasera, signor Claudio Sparviero. Buonasera, buonasera a tutti, ho finito di cenare. Grazie di Ardo. Allucinante, allucinante. Cordon bleu, là. Mi ando a ti racconto un gatto di buona lì. Immaginavo, e ti ha già mandicato. Ho mangiato bene, c'avevo un bel francettino di pizza, un pochettino di formaggio e insalatina, ma roba leggera, no, no. E tutta la sera che mia moglie mi tormenta per un odore sotto la cucina. Provo a montare il sifone della bambina, sai, a volte si sporcano le mani della roba. Arrivi, non sto vivendo io, no, vai dimmi. Passa via, corteggio, passa via, ai miei amici lo sto raccontando, passa via, capito, metto il cifone, lo pulisco per bene, ora fare clima, tutto, lo piatto, pulisco, per 10 minuti, un quarto d'ora apparisce questo profumino malodorante, finiamo di cenare, sai, si puliscono i piattini, si prepara la mondetta per il domani mattina, tanto un fiago di lavandino si buchetta. Non era la mattina. Ragazzi, mia moglie aveva comprato le fettine ieri, invece di metterle in freezer, le ha messe sotto il lavandino. sangue, e sicuramente sta nascendo il sangue, come se sono congelate, avrà fatto odore, ma si può perderare. Per il Signore sì, claro, tu che non ti dovresti lamentare. Perdonare? Ma tu hai già detto che ci stanno andando tutti, che se non piace un buzzeruccio ci può alzare. Alla fine non era il tubo, erano le fettine, dai, colpa tua, Cla, non è che te ne dare lì la colpa alla signora, dai. Oh, però ci ha fatto di male, doppio rutto, ma anche a te ti succedono queste cose? No, a me mi è successo che mi sono dimenticato il polvo nel forno ce lo siamo proprio dimenticati, a pranzo l'abbiamo mangiato, di solito lo togliamo, se avanza qualche cuscia, qualche cosa, la mettiamo in un recipiente e la mettiamo in frigo, come fanno tutti, penso. Ma ci siamo dimenticati, era in estate, dimenticati oggi, dimenticati domani, questa cosa si potrebbe fare, la gente va di Suviago, non si capiva dove veniva, il Suviago andava già a mettere un forno, giù era un cribo. Ma lì praticamente l'aveva preparata per mettere in freezer, anche che mettere in freezer l'ha avvolta nel cucchiaio d'alluminio e l'ha messa nella dispensina che c'è a fianco allo sportello della bambina, praticamente dove si tiene l'olio, l'ha messa lì, quindi questo olio usciva da lì e io pensavo fosse il sifonetto o in plastica che c'è sotto la bambina, lo pulisco di tanto, ma ho visto che era abbastanza pulito, insomma c'era qualche residuo depressivo, cosa così, ma mi sembrava strano. Adesso abbiamo fatto la scoperta proprio di Marlon Brando. Cazzo! Ma domani non va a carri, mangiamo battato. Fraga, ma i gattini usciti solo mi servono per pescare. Si è fatta tutta l'era, puzzolette, cazzo. Un fiago ci ho messo tutto nel poggio. Speriamo non sarebbe qualche gatto, però non ti cazzo mangiarci tutto, Una volta l'ho fatta la prova, ho messo dentro un barattolo un pezzo di carne di pollo cruda per fare i bigattini per pescare, cazzo. Ma loro li trattano, cazzo, questi che erano puzzoletti, ma babbè, come ti ha già messo il suo barattolo, ti ha già messo il tuo barattolo? Ah, che schifo, per carità. Ma io non devo preoccuparlo perché ho detto, hanno disinfettato la poco. Pizza, poi... E frega che la tira a gutta! Lo via, Giacca, te lo vuoi buttare, ti faceva schifo, un tranchettino di pizza, non è di quelle quadrate che prendiamo dalla dove fanno le pizze, quelle al taglio, prendiamo un po' di tranche e mettiamo al congelatore. E poi la torta l'ha fatta con un tranchettino di pizza, un pezzettino di gruggiera giusto per gustare assieme alla pizza e una fetta di pollo che pure l'ho lasciato per il mio buccio perché stasera mi ha mangiato la spianatina col prosciuttino, le patatine, capito, la coca-cola e così via. Quando ci mi vede vado in una barca allucinante, se non mi vado a lavorare con l'altro scoppiante sul punto di non pila da già pillato. Era, ma bello è. E vabbè, la fucilina. Ma si vecchia, meglio che su ghiaccio. lo so, ma anche a me è successo, ed era cotta la carne, era cotta, eppure si è guastata lo stesso, ma la sorta. È durata un po', non lo so quanto, forse più di una settimana che non ci siamo resi conto che era dentro. E niente, ho lavato il piattino tutto quanto, quindi forse non l'ho pulito. Mia moglie sicuramente era convinta che l'avessi fatto io, quindi non ho tolto manco la roba e me lo sono dimenticato, infatti si è presa con me, ma ecco, per poco non vengo a rivermi. Scusa Cla, ma nulla è perduto, non ti preoccupare per la carne. Dal momento in cui diciamo capita l'occasione che ti assila tua moglie per qualche cosa, ti puoi rifare con la storia delle fettine. Si conferma, già tutto scritto, messo in bacchetta. Quello che faccio io con Patrizio, dunque, non ti preoccupare, al momento giusto c'hai la carta pronta per difenderti. Ma è con questo che stavo dicendo poco fa. No, negativo, stavo cercando questo odorino, e alla fine l'ho sorpreso lì stesso. Cosa mi dice? Che ero a caccia, hai capito? A caccia dell'avversario? No, a caccia di vero. Hai preso qui io tutti i serrati, mio, quanto sto cercando, lo davvero, non me lo puoi andare a cercarlo d'inverno. Già lo so io, non ti preoccupare. Antonio, allora andava, riprendi. Ma niente, io volevo dare un consiglio, poi cambieremo discorso, giustamente. Allora, quella che è, se ci sono problemi, già sa benissimo a chi rivolgersi. Io ne conosco uno che parla al baracchino, che è abbastanza esperto, ecco. Dunque, se ha bisogno di aiuto, basta dargli un colpo di telefono, lui già non ne ha problemi. Allora, io lo sto facendo apposta a vedere se entra oppure se c'è lì in ascolto. Te lo conosci benissimo anche tu. Ah, io Leoncino esce fuori. Guarda Leoncino, Antonello. Leoncino, Dio mio, impari strano a me. Se cerca, diciamo tra virgolette, scusando la parola, il pelo di osi, lascia perdere, mezzo nulla. E non ha rimorchiata quella lì, Aussi. Te lo vado a rimorchiare, già, aiuta. Ea, come te ne andrà da voi, te hai su debito? Non solo, è stata anche una giornata, sono state anche delle giornate felici, hai capito, se vuoi intendere, hai capito? Non ho capito. Sono state anche delle giornate felici. Ah, hai avuto tu delle giornate felici? Appa, sottinteso, hai capito? Vabbè, già te lo spiego in verticale, dai. Vabbè, anche voi c'è poco a spiegare in verticale. Abbiamo capito che hai consumato. No! Adesso già hai capito, sì. E finalmente hai piantato il pisello. Che cazzo! Oh, bravo! vabbè, pure guarda. Dai. Come sembra la raccomandata con ricevuta di ritorno, boh, andiamo bene. Cazzo, io sono sempre un uomo, non sono un paragnotta, no? È normale. No, è come me l'hai detto, per me è uscito da ridere, cazzo. Vabbè, bisogna catturare in questo periodo. Attenzione, Antonello che sta per entrare, lo vedo qua facendo al balcone. Non ti buttare, Antonello, cazzo, non ti buttare. Aspetta. Qua ci vuole pomponi, porca mia. miseria. Già certo. Proprio lui, hai capito? Ma quindi questo Latin Lover sarebbe un pugno? È logico, si sa benissimo che l'antidovere della 27 Megahertz è pompone, nessuno lo può toccare quel titolo, mi dispiace, ma ognuno ha le sue mansioni. Un po' gofrazzicò, ma... No, lascia perdere che è più furbo di una volta, fidati, per esperienza, sono uscito con lui e mi sono scese le braccia, non ci credevo. Confermo e firmo e sottofirmo pure. E dipende che donne sono, però se sono puttano tu ci riesco. No, fidati che è una vecchia volpe, non ti preoccupare, lascia perdere quelle, ancora meglio, non te lo guardare così, no? Perché non conosci me? Ma ancora con te non sono uscito, dunque non posso dire niente. Per adesso Antonello detiene il titolo. Uiuia. Eppure uno di questi giorni se posso vedere una cosa, vai. No, guarda, non sono di quella sponda, Ma te sei fidanzato, tu? No, quasi, dai, adesso vediamo. Siamo presi un altro, grazie. Ruinato. Non ho preso niente, sono sempre qua. No, vabbè, adesso vediamo un po' prima, che io valuto la situazione. Non si sa mai che altro che mi bombia nel marchio, hai compreso? E nel momento ci vado piano. Ma se io convinto che ti fidanzavi con la figlia vicina a quel cuore, io ci metto a parlare a Giuseppe. Chi sarà a Giuseppe? Io adesso, per il momento vedo un po', poi... affidabile, non si sa mai che mi dici che ne c'è con un rodone. No, tu marca tre l'avversario, stai attento, capito? Non ti preoccupare, tu consuma per il momento, piano piano, non ci sono problemi. Avanti, doppio lungo. Appaga. Bisogna che usciamo anche noi, Io consumo, allora sì, la bennata interna. È buona, già ce n'è, c'è buona e brutta, solo che la buona bisogna cercarla, perché a quanto pare sta girando in paese che molte famiglie stanno andando in degrado, perché poi molta gente si sta divorziando a quanto pare, c'è di nuovo questo boom delle separazioni, dunque le donne sole hanno bisogno di compagnia, perché no, potremmo fare una ricerca, ecco. Mi ha detto che non ci sono problemi. Mi ha detto che va in terra, mi ha detto di fare qualcosa, capito? Guardate che non vanno via così curo. Giulia. Ogni tanto ne invento una a cazzarola. Secondo me è sempre in ascolto, eh. A te immagini tu quest'altro, a te immagini. Sempre in ascolto con le orecchie di porco, grazie. E avanti, mi ha trovato il dolore. Il mio ha avuto l'uso. Qualche propagazione strana, è possibile. Attento, mio hermano del Portugal, se va a scusciare la Sardinia delante. Ma che cosa è così, Marco? Accusi. Cos'è americano? Station my friend, ci ascolti Italy from Sardinia. Risponde, io Antonio, riprenditela. E no, volevo chiedere a Claudio se aveva fatto qualche altra monovattrana lì nella sua stazione. Antonio, lascia avere, sono 10 giorni a preso a Cavi, a Temmini. C'ho il rottore qua e mi ero sceso stasera. Ieri sera. Ho fatto un casino che non ti dico. Non ho calcolato la distanza del cavo, praticamente, perché rottore io ero da tantissimi anni che non è piazzato. Non ho calcolato la distanza del cavo che ho attaccato dopo il rotore, ho messo tutto a posto, finito, ho messo cavi nuovi, piele nuove da tutte le parti, ho speso la barca del soldi Antonio, non ti dico. Insomma, finito i lavori, un paio di giorni ho usato la direttiva, però non la stavo facendo girare a 360 gradi, era sempre 160, 170, 220 gradi. Beh, l'altro giorno mi è capitato, erano 2 metri, in banda laterale, c'era questo che stava chiamando lì dalla zona, ma troviamo per un arrivo normale, mi stava prendendo di fianco sui 9, 9, 10. Giro l'antenna a 360 gradi, ha deciso tutto trun, c'è tutta ingrigliolata ancora. Tutta cazzo, mi ha fatto un casino, ho rotto il cavo elettrico, spaccato pietre, spaccato tutto, mi faceva ne ho sceso, perché dovevo controllare bene prima di montarlo, ho ricomparto tutto e oggi non ho fatto niente, non da me, perché è un lavoraccio che non ti dico, lo stavo temendo a fare questo lavoro, cazzo l'ho fatto, l'ho finito, ho sfasciato tutto. Adesso Antonio Monteoro già, che tu già conosci, un bravissimo allenatore, grande costruttore di antenne, mi ha detto lasciali, mi ha dato una misura, lasciali quella misura, poi fascetti tutto in modo che lui quando gira, anche a 360 gradi, non si porta via il cavo. Invece l'avevo fascettato con fascetti l'antenna normale, capito? Cazzo, non hai girato l'antenna, si fa buttare tutto. Hai lasciato il filo troppo corto. E allora già. E devi ricomprare di nuovo un uovo. Ho comprato, è un filo da 3x0,50, ne ho comprato 40 metri di nuovo. No, cavo l'antenna, no, cavo l'antenna, non ho fatto niente perché il ballo dell'antenna è dietro, capito? Quello va tutto fascettato fino ad arrivare al motore. Quando arrivi al motore, puoi lasciarne almeno un metro in bando, in modo che quando giri lui sia elastico. Invece l'ho fascettato tutto al tubo, ho lasciato 30 cm dal motore, non sono bastati, bastavano fino a quando l'antenna girava a 120-130 gradi. Quando è iniziato a girare a 360 gradi si è buttato tutto. E vabbè, vedi che anche io sbaglio un po'. Adesso ho comprato un cavo, stasera mi sono uscito, ho comprato un cavo di nuovo e se ne ho voglia domani, se no la signora non mi fa fare 1000 commissioni come stamattina, poste, banca e andare a fare la spesa, e lì e qua ne sono entrato per la metà giorno. Quindi no, non fa. Se la mattina non fare niente, me ne salgo su e mi metto a posto tutto. Almeno già non per diciamo la tua passione, però male poi nell'errore già si impara. No, io credo invece la mia ignoranza, c'è presente per dire le parabole, e anche lì c'è un motore, però questo motore funziona tramite il cavo già dell'antenna in sé, invece tu hai bisogno di due cavi sia per l'antenna sia per dargli corrente, giusto? Al motore. Così chiamato io sono il control box qua sotto, no? Che praticamente c'è nord, est, sud, ovest, capito? Io comando da qua sotto. Quindi se io vedo un segnale, dico a quanti gradi stai lavorando in direttiva? A me a 220 gradi, ok, nord, sud, nord, non è a 220 gradi, nord. E quindi lo prendo in pieno, lavoriamo fondo scala, non ci sono problemi. E in quel caso lì stiamo andando benissimo. sempre bisogno di due cavi, uno per l'antenna e uno per il rotore, giusto? Alla fine sono due cavi alla fine. Sì, il rotore è un cavo elettrico, il rotore non c'entra niente come il BL. Il BL tu la devi riattare sopra un master. Il master è un pezzo di tubo che va in estratto dentro il rotore e il motore, dentro il palettino del motore che gira, non del pistone che gira, del cuscinetto che gira, quello è il master. E il motore va attaccato allo normale come tu stai fissando un'antenna. Quindi ci va un pezzettino di tubo da un metro, da quello che vuoi, e poi ci fai l'antenna sopra. Ma io avevo tutto finito, sopra la direttiva c'era la X50, ho fatto un capolavoro, tutto da rifare. Il trovo che scende a casa è quello dell'antenna normale, ma era già sotto, capito? Era già qua dentro, era tutto già fatto. Dovevo solo mettere il cavo elettrico, collegare il cavo elettrico per far girare l'antenna. Quello che praticamente è attaccato al rotore. Al rotore che va attaccato poi allo stesso tempo al control box che è qua sotto, no? E invece è tutto da rifare. Adesso domani sogno un bug, è una fesseria perché è una tronzata. Ho già il rotore già qua giù, ho già attaccato i fili. Adesso l'ho collegato al cavo nuovo e domani lo porto su e lo faccio scendere nella calata e poi lo riattacco al control box e vediamo un po'. Quando non mi butti, ma no, è balledone, porto il control box sopra già. Lo attacco con la prolunga e mansarda, comando prima la linea, vedo come si muove l'antenna, se è tutto a posto. Se è tutto a posto va bene, se non è tutto a posto, non è collego sotto, prima sistemo tutto fuori e poi collego dentro. Vuole controllato, ci vuole uno che stia su con una radio che ti dica vai ancora per vedere come va, oppure te lo devi controllare tu. No, ma c'è facile, mi porto, infatti anche Antonio mi stava dicendo porta di control box su, mi dice c'è la corrente, ma serve tutto, le colleghi il cavo volante e la fai girare e vedi come gira. Se gira bene, che il punto cardinale, l'avevo anche messo al punto cardinale della bussola nord, perché da nord deve partire direttiva, altrimenti poi non combaci al control box. Quando il control box dice che sia a sud, tu sei a nord, quando sei a nord sei a sud. Invece deve essere a zero, proprio deve partire da un limite di nord. E quindi avevo perfezionato tutto, ma non avevo calcolato la misura del cavo di distanza per i 360 gradi, tutto lì. Vabbè, ma non è successo niente, quanto non abbia fatto danno. Cavo corta una tronzata, 6 euro di cavo, 6 euro e 50 di cavo. Sono andato all'Erico, mi dico a Daniele, ci abbiamo 50%, non ho fatto danno, guarda, e dire, ma dove ho fatto danno, ho fatto danno, vabbè, paga Dio. Guarda, 10 euro, visto, mi ha dato 3 euro e qualcosa qui. Già va bene, cavo buono, isolato con la gomma, quella abbastanza dura. Capito Antonè? Tutto qua. Poi altre cose, ho messo quello, ho messo cavi nuovi, ho messo cavi a basso piede, adesso ho fatto tutti i lavori. Ho ordinato una tua radio, un IC7004, spero che arrivi più in fretta possibile perché ne ho necessità. E niente, altre cose no, non ce n'è. Tutto procede bene, come quest'anno, cazzo guarda, non l'avevo mai presa in culo così. Se procede bene così, allegria, vuol dire che già la vita la prendi con filosofia, dai, se no guai. Ah, è già bello. Io mi piace proprio a me. Non è perché fa una cosa e poi ne esce un'altra, capito? Mille problemi. Mille cose, non si finisce mai, quello ti volevo dire. Quest'anno proprio un'annata, un bel incasinata. Mille cose, veramente, mille cose. Devo iniziare i lavori su, proprio quando mi ha telefonato. Oggi è martedì. Sabato mattina mi ha telefonato che si è fatto male, è caduto molto, dopo non operare la gamba, ha catturato un accumulatore che quindi molto probabilmente avviliscono il permaletto. Molto probabilmente non possiamo iniziare i lavori perché c'è 30 giorni di gesso. Cazzo, bella inculata. E quindi devo aspettare, capito? Però anche lì non è un problema grosso. modo quello che tipo di capo è preso. Il capo quello grosso dell'antenna già. Sì, è 4 gusti. Allora, l'ho preso io un H510 che è simile al 213, però è molto più morbido, e praticamente ha il puntale interno grosso quanto il PL centrale, quindi quanto è l'uscita del PL, rigido, lo devi tirare con la pinza, due pinze ci vogliono per stringerlo, per avvitarlo. C'ha tre calze di protezione, e sopra le tre calze di protezione c'è un rivestimento in alluminio, Antonè. Ma ha solo un difetto, tu immaginate che prima tu eri, adesso sei staccato? Sì, adesso sì, e sono anche a basso di segnale, sto uscendo con un watt e mezzo, sì, un watt e mezzo sto uscendo, sì. Allora, io un watt e mezzo forse non ti ho mai sentito, ma attaccato sì. Voi che ne avessi uno e mezzo, ne avessi 5, 10, per me non cambia. Io ti dico solo che tu staccato eri 9 più 20, adesso staccato così come se adesso sei 9 più 30. Immaginati tu che cosa ho guadagnato. Gianni addirittura mi arriva, quanto mi arriva, come si chiama? Vabbè, una persona che c'ho qua in mezzo, vai, per non fare nulla. Mentre prima era uno dei insomma, arrivava più o meno quanto Luca, nonostante sia più giù. Adesso è a pappetto, quando attacca è 9,40, fate un conto. Quindi per dire, come ricezione ho guadagnato tantissimo, come trasmissione almeno 3-4 punti S. Maliscio, maliscio proprio da... Io sto tornando con 30 watt picchi di 50, come tengo sempre queste radio, non le tocco mai. Antonio Mongolo con l'altro cavo era Santiago 8, adesso è 9 più 5, fate il conto di cosa guadagna questo cavo. Il costo di questo cavo è di 2 euro e ci era 2,80 euro, a metro meno ha lasciato 2,50 euro. Io meglio, tu ne hai comprato 40 metri, giusto? Io ti intendo, basta le luci. Io l'ho comprato prima una matassa da 100, a Bisese, prima una matassa da 100. Poi, siccome mi sono accorto che anche l'altro cavo delle VHF, era peggio di quello, ho comprato altri 50 metri, fatti su conto, 150 metri il cavo, fallo tu conto perché a me quasi ero buttato giù il fumo. Allora sì che veramente capisco perché ti stavi lamentando. Minchia, così tanto da un semplice, tra virgolette, poi un semplice capo, tutte queste particolarità, così tanto coincide con la ricezione. Com'è? Per avere una buona ricezione, io ho sempre detto, continuerò, non mi stancherò mai di dirlo, per avere una buona ricezione, una buona trasmissione, non è importante avere un'antenna messa anche nelle mie condizioni, ma soprattutto avere un buon cavo, perché un buon cavo ti limita alla dispersione, ti limita molto alla rumorosità, ti limita molto al guadagno sia in ricezione che in trasmissione, e hai un chiamiamolo attenuatore interno per quanto riguarda le radio, perché con un cavo schermato come questo i problemi sono molto molto inferiori rispetto a un altro cavo, perché hai una tensione in ricezione molto più tranquilla, nel senso che se ci sono scariche elettrostatiche eccetera, il cavo non è presente perché c'è una tripla schermatura con una guaina di alluminio, e tutti sapete che cos'è l'alluminio, è un isolatore, quindi immaginate tutto cosa fa questo cavo. Io neanche lo conoscevo, io conoscevo l'H100, che praticamente avevo, ma questo era un cavo micidiale che mi ha consigliato un allenatore che di cavi se ne intende parecchio, che Gianni conosce, che è un nostro ex CB che è Antonio usando adesso, sto usando il Galaxy, c'è sempre il tuo segnale, è sempre 9 più 30, qui arriva più 30, anzi potrebbe arrivare anche di più, comunque se ce l'hai presente sei a più 30, poi dopo il più 30 c'è il DB, tu c'hai sempre il tuo segnale, non... è sotto l'impianto che credevo che usavi ancora la MATP, invece no. No, sono una colocazione orizzontale io, già da qualche mese, e non c'è nessun problema. Ho solo guadagnato e poi c'è ben poco. Facciamo girare, già mi ho più tutte le prendi. In effetti è così, dai, quando si trova una buona antenna, può essere un dipolo, può essere un'antenna verticale, diciamo un buon cavo. Quella lì è il segreto per uscire abbastanza bene, dai, per ricevere e per uscire bene. Solo che costa troppo, rimane dov'è. Ma l'antenna già, no, l'antenna lo sai chi l'ha fatta, l'antenna è stata costruita da Marco Scorpion e Massimiliano Archimede. Era presente anche quando la stavano facendo, perché era nella strada per farla, perché è talmente lunga che ci vuole posto. Era presente anche Natalino Fauno, quindi il nostro vice globale. Marco ce l'ha uguale da un tornicio all'altro, però ce l'ha monobanda. Monobanda. Io invece ho la quadribanda, ma è fatta un cavo più grosso delle regi 213, me. E c'ha tutte le morsettiere in acciaio inossidabile, non imbarano tutte in acciaio inossidabile perché altrimenti non tiene potenza. Questo è un dipolo che tiene 3 kW, quindi è un'antenna praticamente full side, quindi chiamata dai regolatori per i 10, 15, 20 e 40 metri, e mi dà delle ottime soddisfazioni. Il segreto Gianni lo conosce, perché Walter dice sempre così, e tutti i allenatori dove io ho il massimo rispetto, perché sono dei grandi professionisti, dicono sempre quello. Non ci vuole una grande radio per fare radioamatore, ma ci vuole una grande antenna e un grande cavo. Questo è il motto di chi è superiore sicuramente a me. In effetti è così. Ma il cavo, io ho sempre il 58 e fa molto bene anche quello, dico la verità, non ha mai dato fastidio, tant'è vero che quando l'ho sbucciato per fare di nuovo il PL era normale, non era arrugginito nulla, e l'ho lasciato, l'ho comprato, mi le altre 25 metri ce le ho firme. Ma già, se tu dovessi fare la prova come ho fatto io, ma credimi veramente. Con le RG58 o con un qualsiasi cavo a bassa peta, perché tutti i cavi qualsiasi hanno una peta di minima di massimo, non minimo massimo vuol dire. E se tu dovessi fare una cosa, staccare anche con il volante, ti prendi un segnale a per dire cosa ti posso dire, uno di fuori che ci parli tutti i giorni e ti arriva Santiago 2, però radio 5, ok? Stacchi il RG58 e metti il cavo che sto usando io adesso, ma volante così, giusto per fare una prova, quel segnale di 2, minimo ti sale a 5. Da lì tu ti accorgi che già il cavo ha una perdita allucinante, RG58. Sì, non avete dubbio, ma può farlo quando sono 40 metri, ma quando sono 25 metri di cavo non è che abbia questa grossa perdita. 58, guarda, 58, adesso c'è la tabella che mi sono fatto dare proprio da Grassi, non mi ricordo come l'ho messa, domani la cerco e te lo dico. Ma la 58, superati i 10 metri, già perde quasi il 30%. Ah, poi c'è scritto, te lo dico perché l'ho letto, già il 30% già, e tu non te ne accorgi, sai perché? Perché hai una posizione ottima, nel senso che senti bene il produttore, si lavori bene con Sassari sui quattro lati e senti bene la costa, però hai difficoltà ad uscire verso la zona via, ok? Se tu dovessi cambiare cavo, ma te lo dico molto apertamente, se tu dovessi cambiare cavo, sono convinto al 100% che tu recuperi anche segnali, ma segnali molto molto più alti, ricevendo dalla mia parte, perché è così, è così. 25 metri sono tanti di cavo, Gianni, ma tu sai, siamo pochi, guarda che io ne ho 30 metri, Due parte 39,27, 39,27 ne ho 35 metri di cavo, non pensare che ne abbia, ne ho 10 metri più di te, non pensare che ne abbia 50 metri, 40 metri, ne ho 35 metri all'interno, ma l'ultima radio del fondo, la scrivania è 4 metri e qualcosa, sono 2,70 più 5 metri e qualcosa, quindi l'ultima radio che è collegata dalla punta della finestra io ho 35 metri di tacco, quindi non pensare che siano così tanti. Poi io mi sono accorto del cambio già da cavo grosso a cavo grosso con un coassiale a bassa perdita e un coassiale a perdita diciamo un po' più alta, mi sono accorto subito già della differenza. Bomboli, riprendi, vai a tutto gas. Ti do pienamente ragione perché è così, me ne sono accorto anch'io una volta, ti ho fatto la prova, ti ho attaccato uno, ho attaccato l'altro, c'era un abisso, anche su un'antenna che non è la Mantova, anche sulla Tormo l'ho provato, e c'era un abisso, c'era. Di segnale di trasmissione, anche soprattutto di trasmissione, secondo me ti dà anche meno stazionaria, cioè te le fa perdere troppo, capito? Ah, perché ho visto quell'antenna lì, quella che stai dicendo tu, guarda, che c'ha quasi, io la tua non l'ho vista, però ho visto che da un trovicellato, perché l'altro giorno quando sono andato a casa sua a portare la bombola, l'ho visto com'era, c'era proprio questa antenna così. Uguale a quella, uguale a quella lì ce l'ho io, lui ce l'ha monobanda, quindi è più corta, la mia essendo una quadribanda è molto più lunga, è uguale a quella, no? Con le barre verticali, che sembrano delle cose, si chiama antenna ragno, antenna ragno, ragno full side di Marco la chiama, e vanno molto bene, veramente è un progetto che hanno fatto loro e Marco ha girato il mondo con l'antenna, io sto lavorando tantissimo, mi hanno mandato materiale, senza grosse potenze, 200-300 watt, sto lavorando benissimo. Guarda già che giovanino, per poter avere il massimo del guadagno con l'amplificatore che c'è nel camion che è grosso, ha un cavo grosso, mica c'ha la RG58, ha un cavo ancora più grosso, il 213, che lui chiama 213, ma secondo me non è un 213 perché dice che è rigido, quindi o è un Ceflex o non lo so che cazzo di cavo sia, però sicuramente è qualcosa di serio. Ok? E come ha detto Antonio, questi cavi a bassa perdita con questa schermatura che ci hanno fatti apposta per le lunghezze, insomma, e soprattutto per chi usa grosse potenze, non creano problemi stazionari. Io ho stazionari a 1,1 dal canale 1 al canale 80. Va bene, senza correttore, ho fatto vedere Massimiliano l'altra volta che era qua. Quando attacco lineare che sale anche, secondo la potenza che le do, anche a 600-700 watt, 800 watt, dipende da quello che io le do, le stazionarie rimangono sempre a 1,1, sempre a 1,1. Perché? Perché se tu le dai watt a un cavo fine, a un cavo che è un cavo insomma non è eccezionalmente ottimo, quindi secondo te è fatto per basse potenze, per grosse, insomma, non che non sia molto lungo per capirci. Ti crea problemi di trazione perché va a disperdere, quindi andando a disperdere aumentano le stazionali, quindi non ce la fa più a tararsi il cavo. Quello grosso invece, essendo schermato, essendo grosso, essendo un cavo proprio ad alta potenza, riesce a mantenere la potenza in uscita in antenna, prima che arrivi in antenna, non disperde, la stazione rimane la fabbri. Sto Claudio, giusto. Allora, un fatto così te lo dico in 2 secondi, mi è successo da Massimiliano. Montato l'RG58, vai a montare la Grand Prix, quella Grand Prix che ha lì. sono stazionari a più di due. Rimontiamo l'altro capo grosso, rimontiamo, nel manco si muoveva l'ago. Ho sentito la voce di Gigi Vulcano, buonasera Gigi, ti ho perso stasera, hai detto che entravi e invece ti sei caramagliato, sicuramente lì stanco molto, ma è così, la realtà vera e propria, credetemi, ma non lo dico per presunzione, perché ne so più di voi, perché l'ho passato con mano. Io ho fatto 1000 prove quando sono arrivato qua nel 1985. Il primo cavo che io avevo montato era una RG58 ed era al 9° piano, avevo se no 15 metri di cavo, neanche forse. Lavoravo bene, perché? Perché avevo poco cavo, però mi accorgevo che la ricezione, per l'altezza che avevo, per la posizione in cui ero ubicata l'antenna, non era così grande, assolutamente. Quando ho iniziato a conoscere i primi radioamatori, perché ho fatto il pirata per tanti anni, quindi dico, non ho nessun problema, quando ho iniziato a conoscere Walter, sono arrivato a Sassari, qui siamo visti, ci sentivamo ma non ci conoscevamo, ho conosciuto grandissimi radioamatori che ancora oggi sono in attività, ho detto, ma scusa un attimo, ma tu che pensi di poter fare radio con un cavo così, avendo questo tipo di apparecchiature, perché io già in quegli anni avevo questo tipo di apparecchiature, quindi apparecchiature professionali con questo cavo del cazzo, cioè, no, non è possibile, punto, si mette il cavo grosso, ma non è la stessa cosa, ma è la stessa cosa, tu gli col cavo, Walter mi disse, e metti un cavo grosso, inizia a usare il cavo grosso per avere almeno la resa della radio. Beh, credetemi che io quando ho tolto la 1058, allora, in quegli anni, ho iniziato ad usare l'RG8, perché il 213 è uscito dopo, ma prima c'era l'RG8. Cazzo, c'era un abisso, credetemi, c'era un abisso. Questa ricezione che arrivava da tutta la Sardegna, prima non sentivo mai nulla, mai, assolutamente. Bassi, forse riuscivo a fare qualche QSO, ma non era eccezionale la cosa come quando tu hai iniziato ad usare questi cavi, capito già? Bulato mi ha durato 10 anni. Avevo venuta a Cozzo. Già, stai trappando, non stai uscendo. Sì, perché ho premuto male sicuramente, l'ho preso a rovescio il microfono. Volevo chiedere comunque buonasera a Gigi Vulcano. Volevo fare due domande a Claudio. La prima è, devi rispettare sempre diciamo gli 11 metri per la 27, oppure non c'è bisogno di rispettare diciamo questa piccola legge urbana che si sente, oppure no? Quello che passo il microfono a Gigi sicuramente vuole intervenire, è preferibile per avere una maggior resa rispettare per altezza 11. Se poi alla fine del discorso praticamente all'interno ti trovi con 1,5 metri di cavo in più, non succede assolutamente niente. Però è fattibile ed è meglio sempre per sia sentito dire che per esperienza mia usare gli 11 metri come misura principale, quindi rispettare le calate da 11 a 11. Ribadisco che se poi all'interno ti trovi 2 metri di cavo in più non succede assolutamente niente, perché ce l'hai come interno già collegato al piede, quindi dispersione, vero. Quello che disperde è quello in calata verticale che va rispettato nel modo più assoluto. Rimettiamo il microfono a Gigi, sentiamo cosa c'è lì. Buonasera a tutti. Claudio, io adesso dico anch'io la mia, dai, che io avevo comprato, aspetta che un bedecco, no? Forse l'ho tolto. Avevo comprato 33 metri, rispettando 11 metri, avevo preso 33 metri ed era pure abbastanza lungo. Di cavo quello le 213, per giù per che avevo piazzato in garage delle corse che avevamo fatto assieme. E mi ricordo una cosa, col cavo tutto quanto lungo, che me ne è rimasto parecchio, quando abbiamo fatto le prime prove mi dava un po' di stazionare, poi a occhio abbiamo tagliato e abbiamo lasciato quello che passava a rifare sino dopo doveva rifare. E tagliando così sono sparite le stazionarie. Non sapevamo quanto fosse. Adesso dai tu che l'ho ritagliato, non so la misura quanto sia. Non c'ho stazionari, non ne ho nulla, non mi insegnano proprio niente, non ne ho nulla stazionaria. E poi ho una cosa, devo dire una cosa che sarà buona anima di Giancarlo, mi ha detto queste parole la buona anima di Giancarlo. Dice, sì, dice una cosa che si dice, rispettare 11 metri, rispettare 40, gli spezzoni 45. Giancarlo mi ha detto, tu parti dall'antenna e adopera quello che ti serve. Possono essere 20 metri, 22, 23, adopera quello che ti serve e non succede nulla. E così ho fatto io e va bene lo stesso. La stessa cosa è del 45, che noi rispettiamo il 45, quello e quell'altro. Ho notato io, vado appena più lungo, ha cambiato sistema. Dipende. Comunque va bene, tu dall'antenna a arrivare all'apparato passa quello che ci vuole, non rispettare. Se poi ti capita giusto di rispettare 11 metri, rispettali. Però se ce ne voglio 12, fanno 12 pure 13, non succede niente secondo me. Avanti Claudio, se poi ho sbagliato riprendimi tu. No, Gigi, ma infatti se sei stato attento, ho detto, è preferibile rispettarle, ma poi alla fin fine anch'io che cosa ho fatto? Io ne ho 35 metri, quindi non sono rispettati per niente. Considerando il fatto che io all'interno ho sempre un metro e mezzo in più di cavo, perché mi capita di ascoltare una radio e ho bisogno di avere qualche metro di cavo in più. E vi dico altro, che tutti i miei spezzoni, il più piccolo spezzone di questo H510 è da 1,20 m, il più piccolo, ne ho anche da 1,50 m, ne ho anche da 1,70 m, perché la sezione dove sono gli amplificatori, qualcuno qua è venuto, il pontone mi pare sì, la sezione degli amplificatori che sono uno vicino all'altro sono tutti distanti dalle radio. Per evitare dentro gli RF sulle radio, il vento, le ventoline che si sentono, sono lontani. Quindi per arrivare alle radio di spezzone, purtroppo li devi fare lunghi. E credetemi, con questo tipo di cavo io non ho problemi stazionari da nessuna parte. Zero sotto zero. La cosa che non consiglio a nessuno, perché è successo anche a me lasciandola sul tetto, infatti mi sono incazzato con me stesso, ho detto la porca puttana, dopo tanti anni di lavoro e sacrificio di esperienza ho fatto la cazzata più grande della mia vita. Avevo lasciato il cavo, proprio quando ho fatto questo lavoro, avevo lasciato il cavo arrotolato su per non tagliarlo, perché non sapevo esattamente la misura. Un cavo arrotolato per terra o appoggiato a qualsiasi parte diventa un simmetrizzatore. Un simmetrizzatore vuol dire che tu quando schiacci la portante il segnale va simmetrizzato, quindi girato, prima di arrivare all'antenna tu segnale non ne hai. Lì nascono le stazionarie. Mai arrotolare un cavo per terra e lasciarlo arrotolato vicino alle radio, mai. Tagliarlo sempre a misura, oppure lasciarne un metro e mezzo, però sempre lungo. Mai arrotolarlo, mai, avanti lo più. Giusto, questa teoria la conosco anch'io. No, ciao Gigi, però non ti ho salutato poco fa. Niente, sì, è così. Non bisogna arrotolarlo il cavo, anche perché cambia l'impedenza. Non fermo, infatti sai perché? Non so se tu vedi, perlomeno a me mi hanno insegnato così, io nell'antenna VHF, anche in quella 11 metri, nelle antenne verticali io faccio un giro da sotto il piede, un giro, proprio un cerchio. Quello qualcuno mi ha detto, ma serve per l'acqua? No, quello serve per simmetrizzare il segnale. Cosa vuol dire? Che quando ci sono stazionarie, arrivate da giù, se le stazionarie tu ce le hai giù per qualsiasi cosa e non in antenna, perché attenzione, non è che le stazionarie arrivano sempre dall'antenna. quindi a me non è segnato di fare su, dopo il PL, quindi collegato il PL, e poi l'ho fatto anche a Gigi, tutte le altre delle motore ve lo faccio, un simmetrizzatore, quindi un cerchio non molto grande, quindi da 100, più o meno la misura è quella, 100, quindi 4 pollici da 100, in modo che il segnale dall'antenna a riparare alla radio non abbia nessuna dispersione. Io lavoro così. Sì, Claudio, l'hai fatto da me. Io ti ho chiesto, ma perché gli stai facendo questa specie di curva di cerchio? Sì, e poi la guardia deve si vede, l'hai fatto, non l'hai fatto da me, non l'hai fatto anche nell'antenna mia. Infatti ero curioso, ti ho chiesto perché gli stai facendo questo cerchio così. No, va bene, perché poi, vabbè, come è stata montata, è stato seguito i punti di riferimento, eccetera, è andata bene alla prima, non abbiamo più toccato, e va bene, la mia, guarda, è rimasto, ho fatto vedere a Massimiliano l'altro giorno, e è rimasto così, che non segna, non segna neanche, eppure è anche male, no? Avere almeno 1-1 di stazionari è brutto, perché è meglio che ci sia 1-1 di stazionari che non ci sia niente, è proprio zero completamente, non è neanche che è giusto, quanto mi hanno detto, cioè, almeno 1-1 dei stazionari, eppure io ne ho, proprio non si muove l'ago, addirittura, proprio niente, ne ho. E quando attacco posso salire massimo a 1-1, quando attacco qualcosa, mica come hai detto tu prima. Sì, ma il problema del simmetrizzatore è un problema che c'è anche per chi studia le normative, studia elettronica per diventare un attore. Il sistema adottato dai più grandi antemissili del mondo dove serve proprio per far sì che il segnale venga simmetrizzato. Simmetrizzare, lo sapete tutti cosa vuol dire, quindi abbia un punto di riferimento sia in ingresso che in uscita e non abbia nessun'altra perdita, ma neanche nessun altro guadagno, deve essere quello e basta, per far sì che l'allineamento tra l'antenna e la radio sia simmetrizzato. Questo è il sistema che tutti adottano, perlomeno quelli che me l'hanno insegnato a me, sicuramente sanno che cosa stavano facendo. Vorrei rilanciare ad Antonio Bombolo, poi Antonio Vetta e Antonello Di Rossi. Volevo capire questo sistema. Ma cosa è questo? Ma lì c'è proprio un cerchietto o lì gli attorcigli il capo nel palo? Cosa li fai? Fai ancora un cerchio, quindi il cavo in verticale, tu quando lo avvicini al piede è un cavo in verticale e poi vai ad ancorarti con l'altro isolante al tubo, ok? Prima di ancorarti al tubo le fai un cerchio e praticamente ti viene attaccato al tubo o con la fascetta o con un altro stesso, ti vengono due cavi accoppiati. Perché ti vengono due cavi? Perché c'è il primo cavo verticale, l'altro te le fai il giro e quindi ce l'hai doppio. In quel cavo doppio tu lo devi bloccare, ok? Bloccare al tubo a una distanza di 50 cm dall'attacco del PL. E tu stai pur certo che stazionare non ne avrai mai. Oppure lo voglio vedere questo sistema, lo voglio vedere come lo fai, a vedere come è questa cosa. Volevo dire anche un'altra cosa, che secondo me il problema molte volte, le misure secondo me le deve rispettare con un capo RG58, che a me in breve volte mi ha dato quell'impressione, mi ha dato. Se invece tu attacchi un'antenna sempre sto parlando sopra il tetto e usi un cavo buono come quello che c'hai tu, come quello che c'ha Luigi, secondo me gli dà tutta un'altra impedenza e dà meno fastidio possibile, non da stazionari, proprio gli attenua, perché proprio invece magari col cavo fine devi fare un pochettino più i calcoli, perché si può dare problemi, secondo me. Questo è secondo il mio punto di vista. Sì, no, invece voglio fare una prova con te veloce. Se tu mi stai dicendo che adesso in questo momento, anzi come poco fa, Sto scendo con un watt e mezzo, due modulati, no? E sicuramente tu mi hai detto che stai arrivando a Santiago 9, 9 più 10 o più 15, quanto mi hai detto? Sì, 9 più 30, mentre prima eri 9 più 25. Ah, 9 più 30, perfetto, adesso faccio così, aspetta un attimo. Ecco qua, aspetta. Ok, aspetta. Vedi un po' adesso, adesso quanto dovrei essere arrivato? Oh, io sto andando col DS 140, sì, 9,43. Fatti il conto che cosa guadagno in ricezione con un lineare come il tuo da 100 watt. Umbe, impressionante. Adesso sto uscendo, adesso così. A portante fissa 80 e modulati 100, dai, 80, no, sì, 100, 100 modulati adesso. A portante fissa 80. Cosa che ti arrivavo più 30 quando non avevi quel cavoli, pauroso. E un'altra curiosità, ma li vendono a sassa di questi cavi oppure devi ordinarli da internet? Ora, io l'avevo già detto, forse tu non eri presente, questo cavolo è costruito a Sassari e lo costruisce Melchiori, fa un H, allora, questo è 510, non me ne metto più, allora fa il 510 che è quello che ho preso io, poi ne fa un altro, senza la schermatura in alluminio, ok? Però io ripeto, per me, per chi, per tutti voi, per chi usa delle potenze superiori a 100 watt, il preferito è quello che ho io, l'H510, che è favoloso, costa ma è favoloso. Al momento è il miglior cavo in assoluto, per, insomma, così mi hanno detto, per chi usa grandi potenze, radio di un certo livello, eccetera. Soprattutto per grandi lunghezze. Anto, guarda che il sinetrizzatore si può fare anche con le RG58, non è difficile farlo, viene un po' più male perché è morbido il cavo, quindi devi cercare praticamente mentre stai facendo il cerchio e accoppiando il secondo cavo per fare il cerchio, perché da solo non lo puoi fare, devi natarlo, quindi un nastro sopra a croce lo devi bloccare e poi attaccarlo al tubo, mentre col cavo così tipo RG213 viene benissimo perché tu lo giri, non rimane fermo, non fai altro che fascettarlo a 50 cm dal mozzo della spirale dell'antenna o dall'attacco del PL, no, non ci sono problemi. Gigi, quello se tu ti ricordi, io ti avevo risposto che c'era anche Luca e ti ho detto, queste testuali parole mi ricordo, ti ho detto perché Clare stai facendo questo cerchio? Luca ti ha risposto, per non entrare acqua, io ho detto no, me ne accorgerete dopo a cosa serve. E te ne sei accorto quando hai misurato le stazionarie che eravamo a 1-1. No, l'acqua non può essere perché non serve, non devo mettere in contrario la testa in giù l'antenna, no? non c'entra un cavo. Però devo dire un'altra cosa, Claudio, un'altra cosa che forse questa neanche tu la sapevi, però questo a me me l'ha detto gente che costruisce, gente di sud del continente che costruisce antenne, me l'ha detto la stessa persona che questo costruisce anche antenne per il tetto, fatte da lui artigianali, e quello che ha fatto l'antenna a Giovannino adesso ultimamente, quello lì, gli ho detto questo problema e lui mi ha detto subito il problema senza dirgli io, gli ho detto che davo fastidio, stavamo parlando, ho detto do fastidio e lui mi ha detto il problema subito che cosa era, ha detto tu per non dare fastidio a nessuno i radiali devono essere distanti 5 metri, dicono 3 metri, però se tu ce l'hai a 5 metri sei ancora, tu non dai fastidio a nessuno, distante dal tetto, dal piano del tetto, se ce l'hai tu a 5 metri non dai fastidio, se c'è a 3 metri non, già non dai fastidio più a nessuno, a 5 metri o 4 metri ci sei ancora migliore. Il problema del cavo, un'altra cosa molto importante, il problema che avevo detto del cavo d'acciaio che ho messo io, quei tiranti d'acciaio che ho procurato, mi ha detto che ho fatto la cosa giusta, non le devo isolare assolutamente, ho fatto giusto, le devo collegare direttamente al tubo, al ferro, al tubo, mi ha detto. non isolarle assolutamente con bacchilite, con niente, con di plate, nulla, vanno attaccato direttamente al ferro e attaccato con i cusi al muro, direttamente al palo. Claudio, io infatti stavo parlando con te, ero preoccupato, fulmine, no, dice, hai fatto la cosa giusta, deve essere collegato direttamente al palo, ed io pensavo che fosse una cosa sbagliata, invece non è sbagliato niente, è giusto così, deve essere collegato il campo d'acciaio direttamente al palo, hai capito? Il palo che tiene l'antenna. Sì, però la volta che tu me l'hai detto, me lo ricordo, che mi hai detto che l'acciaio era nudo, e io ti ho detto, lui è preferibile che sia quello, il cavo di acciaio, però quello rivestito in gomma, quello che usano per i fili a tendermi. Perché cosa succede? Se sfilaccia l'acciaio, fa da conduttore, toccando all'antenna, che l'antenna è a massa, quindi il palo va a scaricare sull'antenna, può essere pericoloso. Se invece il cavo d'acciaio è dentro la guaina, no, forse non me l'ho spiegato bene io, se quello è guainato, il cavo d'acciaio va benissimo, non c'è problema. Nelle direttive, nei trolici ci sono tutti i cavi d'acciaio, cosa che vuoi mettere, cavi in nylon? È assurdo, ci vogliono i cavi d'acciaio col tornichetto, che vanno stretti, bene tirati, messi in fila, perché altrimenti il traliccio balla e ballando può spezzarsi. Va bene, però io ti dissi a te, se è inguainato Gigi è meglio, perché essendo inguainato non sfilaccia e non è pericoloso. Se sfilaccia il cavo d'acciaio e va a trisciare, soprattutto col temporale, sopra il tubo, per fare da scarica di pressione, capito? Io mi ricordo averti detto, non di che non andava bene, io ti ho detto va bene, però dici se è inguainato è meglio, e tu mi hai detto, ma la volta il bombo 30 una bomba, ma come lo puoi mettere, qual è il problema? Quelle pompe del vino, certo che ci vuole il cazzo un coso per farcelo entrare, però è meglio che il cavo d'acciaio sia inguainato. Invece, non mi hai capito che ti voglio dire, io ho convinto al 100% che andasse male, perché mi ha detto no, deve essere a contatto col palo, non isolato, io lo volevo isolare, no, non deve essere isolato, deve essere a contatto col palo, non con l'antenna, col palo, deve essere a contatto col palo, due, tre tiranti, devono essere a contatto col palo, questo me l'ha spiegato questo Mario, questo che costruisce antenne e via dicendo, va spiegato tutte le cose, per non avere problemi di dare fastidio a nessuno, di sollevare i radiali, devo sollevare ancora il palo, e mi ha detto di metterlo diretto attaccato a ferro con ferro, di non isolare nulla, che vuole attaccato così, non so perché cosa, ma va meglio fatto così. Io infatti, per me aspettavo che andasse male, anche tu infatti ero preoccupato e volevo fare subito, dice no, dice hai fatto la cosa giusta, il cavo deve essere a contatto non con l'acciaio, proprio con l'acciaio ben messo, con mossette, cosa ben stretto al palo, non isolarlo, dice non lo devi isolare, devi attaccare direttamente, capito? Eppure a me mi sembrava una cosa sbagliata. Oppure attaccare col morsetto al palo, certo va attaccato al palo, mica l'antenna Gigi, al palo lo attacchi, no? Ok, è nudo perché va bene anche così, quello che però una volta che è morsettato al palo, che è nudo, forse tu non hai capito, l'ha detto lui, va bene così, ma la discesa poi del cavo d'acciaio è meglio che sia inguainata. È meglio che sia guanata, perché se disgraziatamente un temporale è di quelli allucinanti, se ti scarica il fulmine davanti al cavo d'acciaio, quell'antenna te ne scende a terra, perché il fulmine, il cavo d'acciaio, lo spezza in due di netto. Lui invece mi ha detto una cosa, che l'avanto va a turbo e ha detto non può mai cadere e aspetta perché non lo fa da non so che cosa, di non preoccuparmi, di essere, anche dove attacca il muro, dove l'ho fatto il tassello messo al muro, sempre essere a contatto. Hai capito, Cla? E io infatti lo volevo isolare, lo volevo mettere quel tipo facchirite e isolarlo, ma ha detto di no, assolutamente. Deve essere a contatto, non come inguainato come dici tu, no, a contatto il capo proprio, l'acciaio, a contatto col mossetto che attacco al palo, hai capito? A contatto mi ha detto, non a isolarlo. Hai capito, Cla? È quello che non mi stupiva a me. Mi informo bene su questa cosa. Contatto non vuol dire abbracci il tubo e le mossetti, il contatto ce l'ha. Io parlo non del contatto tra il tubo e la mossettiera dell'acciaio, quella è un contatto che c'è, no? L'acciaio col tubo, il ferro, l'ingatto. Il cavo quando è in tira, io secondo me l'avrei inguainato, quando è in tira però, no? Una volta che in tira io l'avrei guainato perché è meno pericoloso, sempre un dottore, quindi può succedere qualsiasi cosa. Questo quanto riguarda il mio parere, però capire c'è che non ne ho mai usato, anche perché questo è il tempo, questa è la prima volta che io sono approccio la manto a 6,50 metri, quasi 7 metri adesso, prima era 2,50 metri, 3 metri. Lasciate così, che adesso vado con questa antenna filare che tu ben conosci, credo che i risultati siano già arrivati e te l'ho dimostrato stasera, perché tu sei sparito ma io ho accompagnato a Tommaso Cimbas sino all'ingresso di Sardara, capito? Quindi l'ho accompagnato ancora dopo Vistano e lo sentivo sempre, lui sentiva sempre a me. Mi ha detto che metterà su YouTube la mia modulazione, quanto è fatto per far vedere che la chiesa di qualcuno di voi sta, non ho detto lascia perdere, torna a tutti i miei. Comunque, bando alle ciance. Microfono per Gianni. Proprio su Gianni Caputo. Su Gianni, le 11:10, ieri alle 11:20 anche a me. Andiamo bene. Io invece vi devo salutare perché domani mi devo alzare presto. Vi saluto, è stato un piacere parlare in tranquillità, imparare cose nuove. Speriamo che vi capiti una giornata come questa che si impara sempre, dai. Vi auguro buon proseguimento di serata e buonanotte. E giustamente a Gianni sicuramente il minimo è andato a letto. Comunque se coincide a domani, dai, buon proseguimento e mi sono divertito, dai, ho imparato qualcosa di nuovo. Buonanotte a tutti. Ciao Antonello, buonanotte. Buonanotte a te. Buonanotte Antonello. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Ciao Antonello, grazie a te per le due chiacchiere. Dai, ci riascoltiamo, le due siamo sempre qua, oramai spaziamo dal 45, 43, 50, 47. Oramai che canali bassi li abbiamo abbandonati, quindi quando vuoi noi siamo qua in alto, dai. Salvo serata di propagazione, lasciamo libero al 45 e ci spostiamo o al 42 o al 43. Ok, Gianni, svegliatoti, sì. Ma io sono sempre sveglio, stavo ascoltando. Bene, approfitto adesso per salutarvi, che è già tardi. Mi rimango un po' in ascolto e poi nanna. D'accordo, buona serata a tutti di nuovo. D'accordo? Ciao già, d'accordo. Allora devo dire, sai che mi sono alzato già stamattina io. Io alle 7 ero a Cagliari, vicino al Bruzzo, dovevo scaricare una via. Io alle 3, alle 3 io ero già, alle 4:04 sono uscito dai punti stamattina, meno 20. Capito? Sono alzato alle 3 stamattina. Tu immaginati un po'. Ci credo. Quindi lì per il brutto si gira, lo possiamo fare a sinistra, così? A destra. Dopo, no, ce n'è più semmai, ma di quale semaforo stai parlando? Entrando dritto per Cagliari, per via Le Monastiri, sì, è il primo semaforo a sinistra, vai giù in fondo, ti tieni sulla destra e continui a camminare giù in fondo e fondo, e trovi primo e secondo semaforo, e c'è il Bruzzo. Tappa e ho capito. Vabbè. Ognuno c'ha il suo. Lavoro pesato ti stanca un bel, ti stanca a crepare. So, e poi ho visto rientrata l'ora del caldo. È andato al freddo e è tornato al caldo. E quindi ti chiacchiere di tutta la giornata. Positivo, dove chiacchiere con uno con l'altro e via. No, sai cos'è, Cla? Che ogni tanto trovavo qualcuno e ed era nel 5. E allora cosa succedeva? Se dovevo lasciavo a voi, voi stavate parlando, allora io giravo no, e per salutare che lo incrociavo una cosa e l'altra, facevo due chiacchiere con quello là nell'altro canale, nel 5 normale, e poi ripassavo nuovamente nel 45, capito Cla? Io ho capito, infatti l'avevo chiamato e tu ti sei scontato. Ciao Gianni, siamo di trattieri, ti auguro la buonanotte, grazie per le due chiacchiere, è sempre un piacere parlare di queste cose, anche perché ci facciamo, dico ci facciamo, anche io ho tante cose da imparare, ci facciamo un po' di cultura a tutti. Riusciamo a correggerci, perché io in primis ho fatto un casino con il rotore dell'antenna che non mi dico, ho rischiato anche di metterci il rotore, che è veramente un peccato, tutto per non rispettare le misure che non sapevo, e quindi vabbè, pazienza, adesso me le hanno date, quindi mi rimetto all'attacco e vediamo cosa succede. Ok, d'accordo. Ti saluto anche a te e buonanotte, fatti sentire, già siamo sempre qua. Bombolino, a te il microfono. Ya, scappa dai. Oh, Giulia. Ma hai provato a andare sui canali normali, com'è? Cosa? Dico, com'è, tranquillo, eh? Il capo? No, hai provato a andare sui canali normali, ho detto tranquillo, eh. No, non sono più sceso nel canale normale, sono sempre qua, ormai da quando sono a casa dalla mattina sino alla sera oggi ho fatto un'indicazione del radio, ho fatto dei passaggi allucinanti con la 48 che Gigi stesso è rimasto stupefatto oggi. Sì, no, e va bene, ma la lezione si fa sentire quello lì. Io te l'ho detto l'altra volta, ero lì Paolo Ilatti, no, dai. Sentivo parlare questo, però non avevo collegato che tu lo sentivo parlare, pensavo era qualcuno camionista e poi ho fatto ascoltato bene, ma imparavo di Claudio lì. No, sentivo che c'era un volume basso, sentivo che parlavo, state tra qualcuno, salutavo una cosa e l'altra. Però ti sentivo questo, però non ero convinto che non me ero reso conto, non immaginavo mai che tu arrivassi, che potevo sentirti lì, capite? Non ci pensavo proprio, ecco perché. Non ho arrivato a maggio domani, lo telefono, ma come è stato lei? Si è fermato al video di Sarbara e mi arrivava a Santiago 5. Io a lui forse anche più di 5, perché poi c'era ogni tanto avevo splatter da 47, quindi non percepivo bene, però quando era in silenzio mi dicevo, cosa hai detto? Minchia Claudio, Santiago 5 a Sarbara, sì, sono fermo al bivio nella piazzola che Gigi conosce, io lo so dove tanto era. Ma Sarbara, sì, quindi hai superato Ristano, sì, superato Ristano, sono già al bivio di Sarbara, cazzo di vita. Poi è andato ancora avanti, praticamente era 45-50 km da Cagliari, lo sentivo sempre. Alla fine mi ha detto, guarda, io devo girare, come hai detto tu, che devo fare uno scarichetto e poi rientrare. Se ci sei ci sentiamo dopo. Ha posizionato l'articolato e se ne è sceso dicendo appunto queste parole che da fermo ero 5-5, una bomba. E glielo ho detto io, dicevo, vado io domani a scaricare lì pure. Devo andare già, l'ho spiegato io. Gliel'ho spiegato io dov'era, già mi sento, gli stavo spiegando dov'era, dove doveva girare, doveva prendere per Guspini e poi girare per Cross, stavo spiegando per arrivare da quel cliente lì, da quel venditore lì. Infatti mi ha detto, quando se ne sceso, avevi ragione, Sparvier, che perdevo prima Gigi che ti ha detto, se non te ne vai da lì, ti accompagno fino a casa tua. Infatti gli ho detto. questo a lui, no. E lui abita a Nuramene comunque, non è che abita, vabbè, Nuramene è anche in alto, è Nuramene. E dopo Sartara abita lui in casa. Infatti gli ho regalato un alimentatore a lui, di quelli lì, gli ho regalato perché se voleva mettere a casa. L'antenna se lo va a piazzare, voleva entrare a casa pure. Ecco quello che non ho capito io. Mi ha detto sei a pochi chilometri da Nuramini, ecco, e vedo dove abita lui, quindi praticamente l'ho accompagnato sino a casa. No, ma Gigi, sì, ma sinceramente parlando con la verticale non ce l'avrei fatta, non ce la puoi mai fare perché radiando verticalmente il segnale sino a un certo punto arriva, poi va a disperdersi. Questa è un'antenna maledetta, è maledetta perché te l'ho già spiegato, perché avendo l'uomo di radiazione a 4 punte, praticamente questa cammina da avanti, quindi verso il mare, ha visto l'opera come si chiama? Baranautica, cattura baranautica con la mantola, ma manco per le palle l'ho agganciato la cattesata, era dentro il porto e cattesato, osserva il porto e cattesato, la cattesata sono io, già facevo un po' di difficoltà Gianni a sentirlo, ha iniziato a agganciarlo molto, mi chiede me Gianni come ha iniziato a uscire da cattesato, ma lui c'era davanti, molto meglio di me, lo sente giustamente. Ma io ho la verticale, ma manco l'avrei sentito, manco per sogno, invece con questa, essendo puntata a nord, più che verso la Ginara, e i due lati sono punta di Castelsardo e punta di Porto Torrese, ti scendi peggio, ti prendo il pieno, la stessa cosa fa dietro, punta per Alghero e punta per Cagliari, non è che te vuoi scappare, non scappa da nessuna parte. Va bene, diavolo. Non è che esci, riesci a rifare, è il bello che ascolti anche, è quello, capito, che riesci a ascoltare da quella zona lì. Io dico, adesso vedi, con cosa dovresti parlare tu con il fisio? Con il fisio dovresti parlare, Barrubio, diavolo, Barrubio va, dovresti parlarci con il fisio tu, solo che non si sta più entrando il fisio, a volte entra se lo starne a me, non è vedente, lì è cieco, capito? Sì, lo conosco per radio questo fisio, mi sembra qualche volta l'ho sentito, ma forse nei canali alti in banda laterale. E se ho sentito a Costanza, mentre parlavo con Tommaso, ho sentito a Costanza, quando tu mi hai detto appunto che stavo mettendo ordine, perché quando si parla in un canale e c'è gente che non ascolta, un attimino si fa girare, è chiaro che poi, cazzo, parlando sempre io, alla fin fine, cazzo, Costanza ha ciambato canali, se ne è andato sul 50 con Baranautica, perché non sentiva nessuno. Infatti ogni tanto lo calcava, però un attimino sta parlando Tommaso e lui a Costanzi ho iniziato a agganciarlo dalla piana di Monti, da sopra, proprio alla fine della salita di Monti, e non manco paragone con la verticale, ci arrivo lì, ma manco per il cazzo, lì, nulla, zero sotto zero, capito? Zero sotto zero, invece con questa antenna riesco a fare anche questi miracoli. Ho risolto un po' di problemi, le basse posso portarla su ancora 3-4 metri e allora so dove andare. Allora, come diceva Marco 131, la Sardegna mi mise in tre parti, 3 sono mille e 0 sono le due, cazzo. Avanti, buon volino. Già, pompa forte, anche qua sta arrivando molto forte, io non so quanto ti arrivo con quell'antenna, però qua sei fortissimo. Allora, tu immaginati, mi pare che te l'ho già detto, tu eri Santiago 8,5 con picchi a 9 con la verticale, con questa antenna sei 9 più 10 pieno, 9 più 10 secco. Allora, già se non c'è poco già. Poi c'è una digestione allucinante. Quella lì dovresti portarla appena appena più su da voi, vedi? 10 volte, ma anche così già c'è abbastanza altezza, dai. Però questa, più alta è dal piano del tetto, non da terra va bene, dal piano del tetto, più pompa, capito? Per tirare lassù questa antenna, ogni braccio di questa antenna, pesa 50 kg, io da solo non ce l'ho fatto, non ce la faccio a tirarlo con la carrucola, capito? Perché ancora la spalla mi fa male. E quando sono a posto me la punto da una parte, poi dall'altra riesco a tirarla. Il problema è che va tirata in contemporanea, se non si può piegare, capito? Si può piegare perché al centro, per mantenerla dritta, attenzione, al centro c'è un tubo di polietilene per mantenerla dritta, perché altrimenti fa l'onda di quanto è pesante. Allora dove c'è il ballo, dove agganciano i due bracci, c'è un tubo di polietilene da 4 metri, capito? Fatto a sella per mantenere dritto il PL, perché devo lavorare sempre in orizzontale il PL, mentre l'antenna è, cioè in verticale il PL, mentre l'antenna è in orizzontale. Quindi c'è un tubo polietilene fatto a sella, fatto il piantone in terra, c'è un piatto, e poi c'è questo tubo polietilene da un pollice di quelli posti, con la sella saldata per mantenere i due balloni di accoppiamento. È un'antenna spettacolare. Se io trovo qualcuno che non teme l'altezza, siccome è da cornicione a cornicione e non è facile lavorarci, io me la sono piazzata da solo, se trovo una persona che non teme l'altezza, e lui da una parte mi tira la carrucola, quindi prima solleviamo i telescopici, e poi uno tira la carrucola da una parte, uno tira la carrucola dall'altra, tu con l'antenna la vedi, guarda, 131, ed è anche bella da vedere, perché non ce l'ha nessuno a sassare con l'antenna, tranne che io e Marco, solo che per vedere quella di Marco devi salire su a Filippo, la mia la vedi a qualsiasi punto, capito? Dai, io vi devo salutare che domani mattina devo alzare presto, io devo alzare alle 4:30, dai, sennò poi sono stanco. Non è un sonno, però mi devo riposare per forza, Claudia, sennò domani è grigia per me. Va bene, dai, io vi do la buonanotte, dai, non so chi è rimasto, se è rimasto tu e Antonio, penso non ci sia altro nessuno, dai. Se c'è qualcuno altro in ascolto, io vi do la buonanotte, riprendi tu, Anto, per la buonanotte e chiudo, dai. Ce la risentiamo. Adesso Simina, buonanotte, avanti Claudio. Ciao Pagli, ok, buonanotte, alle prossime, dai, se coincide ci sentiamo domani, va bene, fate la buona. Vittoria tu, così è, ma io anche questa antenna l'ho scoperta facendo le prove, mica pensavo fosse o avesse questi alti guadagni. L'ho scoperto facendo delle prove quando ho attaccato il cavo della mantova e mi sono trovato così un po' spiazzato, ma e si attacco di pelo. Non so per fare due chiacchiere in città, sarà più basso il segnale, comunque mi sento. Quando ho visto che arrivavo ad Alghero fortissimo, arrivavo a Bushmi, dove era Daniele, dentro città, dentro il paese consegnando, e ho sentito la prima volta Gigi che mi ha agganciato lì a Paolilattina, e no, cazzo, ho detto, questa antenna c'è qualcosa di superiore. Ma lì ho iniziato a fare le prove, esperimenti, segnandomi tutti i segnali e mi sono accorto che c'è un guadagno di oltre 5 dB. È molto superiore di dB anche di trasmissione, c'è 4 lati già, che ci dividono fra tutte le parti, penso che in propagazione sia micidiale. Perché quello lì equivale a 4 volte di più. Ma poi porta bene l'amplificatore, che è uno spettacolo veramente. Ora non so se l'antenna stessa, se il guadagno del cavo, se come è stato fatto il lavoro, eccetera, però ho speso 50 euro in PL, io ho tutti in PL in vetro, ho fatto vedere a Sandro, io ho in PL in vetro, alta temperatura, 90 gradi, 5 kW di potenza, in vetro, speso 50 euro in PL, arrivati da fuori. Sono PL in vetro, proprio stampati, fatti a pressione, in vetro. Cortano la pacca di vina, cortano. Comunque oggi ho trovato una buona antenna, almeno se non sono tutto fatto la soddisfazione che c'è un'antenna che spinge anche su queste bande. E questa è nata per i 10 metri, questa è fatta apposta per i 10 metri, i 15, 20 e 40, però visto che 11 metri, quindi tra la 27 e la 28 non mi cambia onde stazionali, non mi cambia ricezione, non mi cambia trasmissione, perché non l'ho usata. È chiaro che queste sono antenne a lunga distanza, quindi a me di sassoli poco me ne sbatte, ma ho visto che ci sono stati anche grandi guadagni sia in trasmissione che ricezione, anche nel possessore, ma il mio punto di riferimento è parlare con tutta la Sardegna, a me cazzo non ne frega arrivare a fondo scala da Sassari e non farmi sentire in tutta la Sardegna. L'importante è avere un riferimento al di fuori da Sassari. Anche dentro Sassari facciamo il nostro meglio, chi più chi meno, insomma, ci sentiamo tutti. Il problema è farsi sentire fuori e credimi, guarda che sono rinato, sono veramente rinato. Ripeto, non so se è il netto guadagno dell'antenna o c'è una percentuale anche del cavo, sicuramente ci sarà una percentuale del cavo, però l'antenna sta rispondendo molto bene a tutti. Capo, ma la devi accordare su queste bande? Nulla, niente, nulla, questa non è, è già accordata, ti sto dicendo dalla 27 alla 28, quindi dai 10 metri agli 11 metri. Io non ho nessun accordatore qua, niente. Lui lavora ad onde stazionali a 1-1 su tutti i canali. Capito? Dico canali da canale 1 al canale 80. Quindi oltre anche il canale 45, io ho sempre 1-1. Quando attacco l'amplificatore, sempre 1-1 rimane. E siccome c'ho il lamparometro sull'amplificatore, l'amplificatore di giuria, quello professionale, c'è un lamparometro anche, che segna in milliampere la potenza della valvola, l'assorbimento della valvola, con l'altro cavo, la valvola aveva un assorbimento allucinante, perché non era stabilizzato il segnale. Con questo tipo di cavo, con questo tipo di antenna, la valvola lavora sempre dai 30 ai 35 mA, che è proprio l'ideale per far lavorare una valvola in accoppiamento giusto. Papa, hai trovato la formula vincente, dai. Ah, sono contento, perché è il casino, è il cazzo, se no. Stavo leggendo, è la mantova fino a dove arriva la tua mantova? Come distanza? La mantova arriva un po' da tutte le parti, a meno se riesco ad arrivare io, come molte volte qualcuno mi dice, cazzo, ti ho sentito a punta di casino, ma io non ti sento, invece oggi un Tommaso Civas che stava viaggiando, quindi sempre camminando, l'unica fermata fatta a Tramazza, ed era Santiago Nove, sai dove è Tramazza? Dopo Macomere, arrivava Nove, lui era tra il 7 e l'8, c'era anche Gigi lì, l'unica fermata l'ha fatta lì, quando ha iniziato a camminare, quindi arrivare a Santa Giusta, superare Santa Giusta, lo fermo di Santa Giusta, io ristando, lui sempre camminando, sempre parlando con me, è lì il problema, se la mantova quello non lo fa, perché è a radiazione verticale, irradia verticalmente, quindi il segnale sale e quindi va a disperdersi, questa essendo direttiva non lo perdi. Scappa, non lo perdi, no, sta buffone invece. Dico, però quella lì, la mantova, quanto ti può fare il raggio? Fino a cosa ne so? Non lo so, dai. Allora, per la posizione in cui è adesso, l'ultima prova che ho fatto prima di cambiare il cavo, mi pare che tutti ci siamo sentiti lì nella zona di Boro e quella zona lì, quindi a cavallo tra la provincia di Nuoro e la provincia di Sassari. E non ho grandi difficoltà. Se uno a me mi sente, io sento a lui, mi sta anche bene. Però capitava molte volte che lui a me mi sentiva lui camminava scendendo da Cagliari, e quindi l'ho sentito lì nella piana di Macomer che parlava con Tommaso, infatti Tommaso stava andando a Cagliari, stava rientrando. Da quella zona lì l'ho portato fino a Sassari, quindi non l'ho perso nella discesa di Bonorra, che è molto difficile, non ci arrivi lì. Ho detto, tu senti a me, ma io a te non ti sento, invece con questa antenna lo sentivo benissimo, non l'ho perso per niente. Infatti sintetici cosa ho detto. Il bello è che ti sentono e tu senti anche gli altri. Il brutto è quando tu non mi senti agli altri, ti si girano le balle in tu. Vabbè, logicamente non sai che gli altri sentono a te. Perché ho detto, mi dice, caro, perché ho sentito lì, ti ho chiamato, non mi hai risposto, ma io non ti intendo, non lo faccio sentirti. Non ti posso mai sentire. Questa è la reazione verticale dell'antenna, è un po' da orla, va bene per questo locale, ma quando tu già c'è un'antenna così a 50 metri, allora il gioco cambia. Cambia perché la reazione cambia, la polarizzazione cambia e soprattutto i punti di riferimento sono 4, non è più uno verticale, capito? Beh, giustamente che cambia. Ti stavo dicendo, vabbè, purtroppo anche la manta va già sulla sua parte, però intanto non spinge. Cioè, pure la voglio vedere com'è fatta. Chi te la giudica come si è fatta? Questo da lì, dico, come cavolo ho fatto a collegare i quattro lati? Hanno fatto qualche congegno di scatola, boh, cosa cazzo è ciò? Allora, se tu l'hai vista, hai visto che sono quattro fili, ok? Due su una parte e due nell'altra, dove poi vanno tutte e quattro a raggrupparsi in un unico mezzo, quello si chiama balum, ok? Quel balum è fatto tutto in acciaio e silabere, quindi i cavi, le polarità positive e negative sono tutte accoppiate con la morsettiera in acciaio inossidabile. In quella morsettiera c'è saldato l'attacco del PL, dove tu poi vai a collegare il cavo. Per distanziare i cavi, mi segui, per distanziare i cavi, quelli di una parte e quelli dell'altra, quindi delle due polarità, che cosa c'è? Hai visto cosa c'è in mezzo? Ci sono dei tubi in polietilene dove fanno da distanziatori per la banda, ok? Che capo, ho capito adesso. Un bel lavoro, ci vuole anche un bel po' di soldini a fare quell'antenna, no? Un costo un po' elevato, sì, perché bisogna avere un cavo buono, comprare tutte le morsettiere, tutte le cose che c'è inossidabile, poi saperla fare a distanza. Quindi a distanza vogliamo dire saper le misure da banda a banda. C'è tutto da forare, i distanziatori, quelli in polietilene, o in plastica, come vuoi tu, quelli lì vanno fatti a misura e messi alla misura da uno all'altro giusta, perché devono essere, poi lì ci va tutta una fase di accordamento, va accordata sul posto, quindi montata, ed è un grande lavoro per fare, per accordarla. Questa mia è stata accordata prima a terra su due pali, tirata e accordata a terra su due pali, e poi accordata anche in alto, attaccata proprio a casa di Marco da un traliccio all'altro, con Massimiliano Archimede appeso con la cinghia sicurezza al traliccio, a millimetro tagliando le punte dei radiali, così chiamati, quindi dei filamenti, destro e sinistro, quindi positivo e negativo, per far sì che l'antenna risuonasse in tutte le bande. È un grande lavoro, non è facile. Un grande lavoro, sì, puzza molto burulla, non è che lo fa così, no. Comunque, dà delle belle soddisfazioni, pesa un trono, che ha 50 kg per braccio, che pesa un bene. di quanto ce la perde il sonno qua. Lo salita in ascensore, era tutta rotolata, bella rotolata, prima un radiale, poi l'altro, quando sono arrivato sul tetto l'ho messa per terra, l'ho sganciata, l'ho tirata. Ho tirato prima un braccio e poi ho tirato l'altro. Una volta che era ben teso ho iniziato a mettere i pali, a lanciare prima un braccio e tirarlo su, poi agganciare l'altro e tirarlo su, ma avevo la spalla che non mi faceva male, adesso ancora mi fa male, non ce la faccio a tirarla ancora più su. Dopodiché ho palificato il centrale, come ti ho detto, con un tubo polietilene in dotazione da 4 metri con la sella per mantenere quel ballo che ti ho detto poc'anzi, che sono praticamente il gruppo dei cavi che arrivano, quindi due da una parte, due dall'altra, e quattro cavi che si congiungono nel ballo dove c'è tutta la morsettiera in acciaio inossidabile, che è quella più pesante, e dove c'è l'attacco al piede. Quello è serrato, va mantenuto dal tubo polietilene, altrimenti il peso che ha, quando tu lo tiri, lo stendi come il filo da tendere, al centro ti fa una gobba, capito? Invece quello deve rimanere in alto, ora va sellato. Mia travaglio, mia travaglio. È bello per mantenere così forte che... Voglio via. Beh, qua mi pare che io già come, non ne ho più voglia, guarda. Niente, idem con le patate, perché io ho la fisioterapia alle 7, sono già alle 10 e 20, mi bevo una cosettina fresca e poi me la vado a mamma anch'io. Ti ringrazio, e ringrazio a tutti, anche quelli che sono in ascolto, della compagnia, perché anche chi sta in ascolto è sempre una compagnia. Un abbraccio a tutti, ciao Antonio, grazie del QSO, chiunque fosse in ascolto, vicino e lontano, un caro saluto a Claudio Spagliero, buonanotte a tutti e a domani, K. K. E comunque poco fa stavo dicendo, non perché in realtà c'avevo una cosa da fare io, cose mie. Però non è che ne avevo molto voglia, sono entrato solo domenica e basta, capito? Io ho capito, no, io domenica sono andato a mare con la famiglia perché necessitavo un po' di uscire, anche perché l'ultima settimana questa che sono a casa, poi me ne rientro al lavoro, quindi ora sicuro che qualche domenica devo stare a casa o perché sono di turno qui e là, e quindi siamo andati al mare. E domenica sera ho fatto, se no, 10 minuti proprio di radio perché ero stanchissimo e alle 11 ero già a mamma, tutto qua. Vabbè, comunque avremo modo di vederci, di scambiarci due chiacchiere, eccetera, eccetera. Salutami a Pierpaolo, se fosse in ascolto, se non salutiamo a tu, e noi ci sentiamo domani a te, vai. Ciao, buonanotte, buon lavoro e buon tutto, KKK. E gli chiedi i problemi pure sui canali normali a vedere se sono cresciuti qualcuno. Vediamo un po' come va la situazione, ma tutto per provare, se rompa appena veniamo a tornare qua, se sei d'accordo. Sì, abbiamo fatto qualche questione sul canale 14 l'altro giorno con Antonello, gli Antonello Gianni, insomma c'era un po' di gente. Però la stessa cosa, alla fine iniziavano la portante, iniziavano la sovrangolazione, bimba, mobiliare siamo passati il 43 e lì non ci sono cazzi, capito? Ecco perché poi per quanto riguarda che hai dice, a me non mi interessa se chiunque lo une e chiunque lo ci parli, non me ne fu tenuto. Io oramai ho adottato il sistema dei canali alti, non sono i canali alti, e così do fastidio a meno gente. Dai, ci sentiamo, tu stanno bene, cordialità e saluti a casa e ci aggiorniamo domani, ciao Clara, dai. Dai, non c'è problema, tanto ti piace tutto, no, non c'è nessun problema, Ciao, buonanotte.